attenzione, Gianni Chietu, AC6, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cambio. Attento, doppio room, AC6. Attenzione, doppio room, se c'è un ascolto. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Che c'è, cambio. Ma lei a me mi sente? Sono basso, sì. Adesso mi compro un lineare da 4-5.000 watt. Lo metto nel carrello, l'attacco col gancio traino. Già ti sento bene? Sì, già lo so. Come mi senti, cambio? Tutto con lecca lecca. Attenzione, Natalino, si ascolti il Perù, cambio. Anche l'elicottero che è entrato, perché l'ho fatto entrare io, basta che lasci la porta abbassata, tieni. A me si sente il mio. Tira anche la mano più forte. Lo so, il mio si sente. Bene, appena lascio lì, bene così, si amplifica la modulazione, ecco, non è che ce ne siamo, però si amplifica bene la modulazione, capito? Sì, va bene, invece è troppo ripetitivo, non mi piace. No, neanche a me non piace così, ripetitivo non mi piace. Bene, ciò che finisce bene. Gara. E adesso c'è una mano, attira. Sì, adesso non arriva il cedino di dietro. Te l'ho detto io che c'era la regolazione. Loro l'hanno lasciato mentre si è sganciato. Ma ha detto che non era sganciata, che è scesa di tre dentini. Ma allora non l'hanno bloccata con un controllato, cosa cazzo che ti dici? La cazzata non è la paesi. Invece sembra di dubbio, sì. Perché c'è il controllato per bloccarlo, capito? Aspetta un attimo che scendo a prendere le sigarette già. Andando Tommy, perché c'ho la carne, se no è troppo rosso. Ehi, se no la trovi tolta, cara. Adesso se lo mangia così direttamente. Signore, binario 10, ascoltate il Perù che chiama, cambi. Attenzione, canale 10, il doppio rufa chiamato e si sintonizza in ascolto, l'isola sarda che chiama, cambi. Attento, canale doppio rufa. Un corso vicino. Sono ancora ripito. Sono fermato a prendere le sigarette. Ah, mi sono fatto io di rango, non mettiamo che c'è qua. Il marchigio. Parte mia, c'è una via protetta, cambi. Gara. Ci sentiamo a casa allora, dai. Prima mi devo impacchettare con la carne, la salita. Però poi ci va, sai, la devo mettere in pizza. Ecco, comodo. Proviamo. Ancora non te la rifate, se la siamo fuori via Maldetta. Non ce la scopo. Gara. E adesso parto. Tu che lui l'ha già cassato, la salita. Anche io, ero fermo al semaforo. Semaforo. Il semaforo si chiama. Il telefono, bene. C'ho l'antenna io, amico, cosa ti credi? Ma la patente sì che ce l'ho, E quale app? La T. L'antenna dritta è. Dritta è mia. Sto per arrivare. Ehi, cambio. Lasciate anche roba da fare a casa per fare prima. Ma ci ho impegnato a lasciare i ripiatti così, poi non aveva più ripiatti. Dai, ci abbiamo fatto svegli oggi. Io che ci sono ripreso io da casa. Immagina che io sono uscito dai due da lavoro. Sono arrivato a casa, ho uscito per caso. e via, e si occupa tutto. Cagà, va là. Ci sentiamo dopo al limite. Io sono arrivato in via Bugino, qua. Via. Va bene, Napoli, dai, sentiamo. Se capita, se ce la faccio, va. Sentiamo dopo. Cagà, va. Avanti, i carabinieri di Sant'Orsola, che diusilo anche, cazzo via, e beh, Pomponius, e beh, Natali, come va? Ehi, come va? Un po' a piedi, un po' in bicicletta, va? Sì, a piedi sono io, non sei tu, qui c'è la macchina, c'è la patente. Sì. E tu perché non te la prendi la patente? Prima perché non c'ho soldi, prima cosa. Seconda cosa, adesso non sono a Puglia. Se mi capita magari quando vi chiudo qualche soldo, mi faccio il patentino per la macchinetta 50 e uso la macchinetta 50. Già costa poco, costa 14.000 euro quanto un appartamento di centro storico costa. Oh signor, io sto tornando a voce, cosa butto? Questo è zio Pomponio, non lo devi abbagliare tu. Se mi abbaglia quando sono via, c'è tutto storico. Mio madre zio. Antonello, abbaglialo. Antonello è questo. Ma morsi fra i piedi. È sicuro. È pusato una valdenda che fondo a te e non sono 10 cavolti. Qualche giorno già ti porto a Tommy, mi ha chiuso sto ricco, in tram, si fa una bella passeggiata. Lei non metti che gioca col cane mio, perché questo gioca con tutti. Sì, dipende, lo sai che il cucciolo che ho io, c'è un cane che ho io in pratica, è il fratello di quello che c'è al circolo Filo lì a fianco all'hotel. Non ho capito, ma non lo so che il cane è. Comunque, già guarda, giù qua, si gioca con tutti questo. Sono gli amichetti che sono piccoli, che sono in base a una però se ne accorgono dovrebbe essere che è piccolo e non lo tocca. Oh, magari non si toccano nemmeno, niente di strano, giocano assieme. Tutto fallo girare di lì al centro storico, il cane che ho io. Fatto che adesso momentaneamente sono bloccato, se no sarei anche uscito a portarlo. Invece sono qua, non ci posso fare un accidente. Lo so, purtroppo anche io ci sono passato, lo so, ti capisco cosa vuol dire essere in prigione. E quello infatti, ero già in prigione già da prima la verità, però almeno camminavamo tutti e due. Alla fine quando sono alle tassi le cose cambiano, capito? Cambia tutto. E io non ce l'avevo la mamma che era allettata. Io di già se ne bisava, babbo, però lui non capiva manco dove era, un casino qua. Meglio la morte, non me ne voglio mai a metà. Sì, lo so, ma purtroppo è capitato così. Allora ci vuoi fare? Mamma apriva la porta, se ne andava in giro, mi. Da sola, quindi quando c'è l'Alzheimer è una cosa brutta, incomincia a pigliarti male, poi ti risponde male, ti dice che sei ladro, eccetera, ci sono quanti giorni, poi non piglia le pastiglie, non mangia, e c'è un po' di cose strane, dovevi stare appresso a lei, poi si alzava di notte, a mezzanotte, si poi dal giorno alla notte, si alzava, si cominciava a rovistare tutti i mobili, forse arriva su e pigliava voci, ma è una cosa uccidata. Già lo so, mio padre c'è il cervello andato del tutto, altro che Alzheimer aveva. Oiaia, povero uomo, una vita travagliata, e da buba nuova, manco della pensione si è goduto. E perché mio padre no? Solo cosa ha fatto? Ha fatto 3 anni, anzi no, 5 anni ha fatto dopo la pensione, dopodiché è morto di bronco polmonite. Un passati. E cosa ha fatto Camillo Pazzo? Lo sa di uguale. Camillo Pazzo l'ha fatto una depressione, dopo 5 anni, ho tutto anche lui. Già lo so, purtroppo è un macello. Sto dicendo, guarda, la maggior parte dei colleghi di Babbo sono tutti morti. E sono rimasti due o tre in piedi, non di più. Vivi, tuttora. Gli altri sono tutti morti, erano, mi sembra, una quindicina, infermieri, e sono rimasti solo tre. Figurati. Guarda, cosa per dire, non ti posso dire, come si chiamava? L'infermiere che lavorava lì all'ospedale, che parlava tutti i giorni a baracchino. Maestro di Lucia, occhi azzurri. Cosa ha fatto? È andato in pensione morto. Dopo 6-7 mesi. Il Gino 21 è morto, non lo sapevano. Dopo 7 mesi è morto. Ha fatto una depressione e è morto. C'è uno sotto, fallo entrare Antonio, va. Avanti, chiama Natalino. Io qui. Natalino, Antonello. No, mi occorreva un controllo del radio. Mi dovete dire se la radio è chiara o se c'è qualche cosa, rauco, eccetera, eccetera. Per me va bene, 9-10 segnato, di solito. No, no, la radio, voglio sapere se è chiara la radio, chiara, deve essere chiara, la mia voce. È chiara, non è, non rauca, né dice né dito, prova, vedi Antonella come ti ascolta, noi siamo vicini. No, no, la radio è chiara, è perfetta. Ok, vi ringrazio, no, perché, scusate, avevo un problema al microfono e ho cercato di riparato, sembra che va bene allora mi confermate che va bene la radio. Sì, ma cosa hai combinato giù? Sì, avevo un problema di contatti, un filo che toccava e non toccava, e dunque usciva rauca, usciva la modulazione. Ho capito. Ecco. Avanti. Buonasera circolari, a tutta la ruota. Ok, ciao Giulio, buonasera, una battaglia sulle spalle. Ciao Sandro, anche tu ci sei, ed approfitto per chiederti come va la mia radio, se è chiara, il segnale non mi interessa, ma la radio è chiara, la mia solita voce, oppure c'è qualche inclinatura? Allora Giulio, ti devo dire che ho sentito meglio nel passato, comunque va bene. Vabbè, quello d'accordo, dipende dall'apparecchio che uso, no? Ma mi interessava sapere se è rauca la voce o se è chiara, solo quello. A parte il discorso segnale, no, non ci pensare al segnale, perché l'antenna a livello del pavimento, per cui è un altro discorso. No, va bene. La modulazione chiara, puoi contraccambiare il video? Sì, io ti sento bene, ti sento benissimo. Al baracchino il segnale è 9, ma al baracchino, ripeto, sto usando il baracchino, e poi non so quanto possa essere affidabile lo smitter. Capo, ok, dai, va bene, facciamo girare, se no se ne dicono tante. No, c'è qualcosa che non va perché sono ben campagna. Linea d'aria siamo un po' di schioppo, quindi c'è qualcosa che non va. Ok, Giulio, fai girare che io mi accendo un attimino per verificare. Ok, d'accordo, sì, io faccio girare e mi assento per completare il lavoro che stavo facendo. Avanti Natalino, confermi ancora comunque che la radio è sempre buona, e io mi assento per un momento, riprendo dopo. Vai Natalino, dopo ci sentiamo, dai. Capo, mi assento anch'io che mi devo fare cosa qua, al limite ci sentiamo più tardi, vai. Ciao a tutti, cuoriti per me. Ok, d'accordo, Natalino, riprendi Antonello. Ciao a tutti, allora, buon cuoricino, sempre l'ascolto, non c'è problema. Nel caso ci dovessi essere, già vi richiamo, se no al limite a domani quando posso rientrare. Io ci ho avuto solo lì, ho fatto allora 20 minuti massimo liberi, dopodiché allora mi facendo proprio come scendevo giù, in continuo il lavoro che stavo facendo. Ok, va bene, dai, ci sentiamo dopo, ripeto, devo continuare a ultimare il lavoretto che stavo facendo, per cui ci sentiamo più tardi. tanto più mi rendo conto che c'è anche la batteria un po' scarica e sono a cambio e così non se ne parla più. D'accordo, ciao, dopo la ciao. Triste Venezia, sempre allagato, vero Natali, sempre allagata Venezia, l'acqua alta, Natali, tanto lo sole ci semi, Natali, ma chi la pasce il tuo volume non ha giù compreso io, non hai squelci quando c'è il computer, non hai squelci, Natali, Natalino, Natalino. Chi è là? Ma come vuoi che tu non ne ha tanto? Sapessi. Sono tutto il giorno stressato, guarda, una cosa all'altra, una cornacina, una qua, una là, boia. Insomma, mi sto recuperando 2 secondi, poi alle 7:30 devo trovare in farmacia perché arrivano le medicine per ritirarmele. Allora, sono stressato a morte qua questi giorni. Avevo la macchina che mi sono fatto i freni, sono come riprendi, ormai gatto non ho marocco, gatto non mi funzionano i freni. Sono tornato al meccanico, ma non è colpa, no, come non è colpa, se qui l'avete fatto in due, chi l'ha fatto in prima la macchina frenava, fischiavano le pastiglie perché erano consumate, però frenava, adesso non frena più, se tempiare più l'ave ci scende. Alla fine ha controllato e dice che i registri avevano mollato, sì, hanno mollato perché tu non hai sentito bene con il palo. Per forza, se ci molla, se hanno mollato quello sburgo, si è controllato, quindi, colpa di caricatura, ne è andato quindi una. Il resto sta bene? Sì, per il resto sta bene. Un po' stressato perché oggi sono uscito alle 2 dal lavoro, tra le 3 devo portare la macchina, come cazzo fa contro la lettera, quando alle 2 esco dal lavoro, alle 2:30 arrivo a casa, devo andare a mangiare a me, a casa, un po' più giù, si fanno sempre sulle 4 e mezzo. Ho fatto, guarda, assalti mortali, ho mangiato a sanguglioni, mentre cucinavo la roba in casa, ho fatto mangiare a lui, poi ho provato giù, ma guarda che è stato bravo, ho fatto tutto subito, poi sono andato, sono arrivato alle 3:30. Ma io che mercato ci puoi sanguire, io ti ho fatto tutto la montagna alla sera. Vabbè, comunque, ma io domani non lavoro, domani, poi sono aggiornato libero perché anch'io ce l'ho a fare, ho portato la macchina a cambiare la pompa dei freni, fare altre cosette, perché poi facciamo esempio la carrozzeria da Roberto, quindi dove c'era il posto di meccanica, ma fesserie, pompa dei freni devo farle, già comprata. Qualche altra cosetta, ma forse una cuffietta, ma cuffia devo metterle nelle semiasse, basta, il resto è a posto, così entra in carrozzeria e la meccanica è tutta ok. Mi voglio pigliare domani, tanto sabato sono a riposo, così mi faccio venerdì e sabato. Adesso fra poco me la prendo anche una giornata, perché lo stress si taglia a fette, tra lavoro che ho aumentato, tutte le cose che devo fare, naturalmente bisogna che mi organizzi. Io ho visto Andrea. Andrea Oceano. E lo sentiamo ogni tanto su WhatsApp, il telefono mi chiama. Adesso c'ho WhatsApp bloccato, da stamane oggi ho preso una cosa, ma sono provato, ancora bloccato, il credito c'è, non ho capito perché, vabbè, c'è più delle luci. Ciao Eugenio. Ciao Eugenio. Come va? È una scelta Gianni. Siamo due stressati che non è buttiamo la vita. Lavoro, e boh, vado poco in questo periodo. Si lavora a testa bassa e tu rientrati sì. No, comunque. Mamma mia, non ti video che ogni rottura di scatto da stare a casa. Ho giocato un mese e mezzo io, per carità, mi stress. Non so più la parte di rame, per carità, luci. È meglio di fede, sì. Ah già. Che fede, Cla. Fai un paio di giorni. so più cosa fare. Ma non che riflette, le prendi come i signori, come i fuori, eccetera, eccetera. Mia figlia ha trovato l'esame, adesso ha preso 30, mi ha scritto poco fa, ma ho fatto l'esame dato, ho preso 30. È meglio così. Vabbè, piano piano, grazie ci buonissimo già. E mai fatti, mai fatti. No, no, ma neanche io, sono colleghi che 15 giorni se ne prendono, capito? Se li fanno lei tutti, no, no, ma li servono tutti. Non è privato in altra casa, voi abitate tutti nei paesi, sono lontani dal mare, mamma mia. Io settimane a settimane, adesso farò la prima settimana di luglio sicuramente, o la seconda settimana di luglio, ma fin qui proprio, da lunedì a venerdì, capito? Proprio per staccare un pochino, e basta. Poi luglio-agosto, la prima settimana di settembre, mi devo combattere giù l'isola rossa, adesso vediamo se riesco quest'anno a trovare qualche buco, è già tutto pieno, certo, quindi l'anno scorso ci stanno quella casetta lì all'isola rossa, mi sembra che l'hanno già affittato tutto giugno. Altro se ti serve te la posso fare proprio a poco fa d'agosto, vabbè, vediamo, ti faccio sapere. Giusto a farmi una settimana lì senza viaggiarmi. La gente mi viene d'ansia a me, te lo mi rugano. Non lo so, da piccolino, io non ho mai, mia sorella ce l'aveva, ce l'aveva la Dolotte, allora ce l'aveva la Dolotte. E ho provato, no, mi viene d'ansia, mi sento, non lo so, una paura che ho da piccolo, quindi non ci riuscirò mai a stare lì. Una casettina, una camera, una cucina e bagno lì all'isola rossa a Porto, dopo Ferragosto già costa poco, mi ormai diventa giovato l'anno passato, l'anno scorso ero a cavallo di Ferragosto, quest'anno invece dice che va a andare solo dopo Ferragosto, non ci muove avanti da Luvinti a Utrenta, io andavo a Mattesi. E anche a me fa la stessa cosa, però non è andata dal campeggio. Io in campeggio non riuscivo mai a starci in tenda. Sono fatto tutta la notte e vado a pescare. Ci riesco già, è una cosa, diciamo, delle case, perché non so se la vita più di Eugenio non è abituato, capito? Io non ci riesco, non mi sento, non so i tiricchi. Non lo so, più forte di me, sono belle cose perché piace, io non ci riesco. Non sei andato a nessun luogo, genio. E vabbè, questo ce n'era un bel altro giorno, sono sceso lì alla Foce, a Valle d'Oria, stiamo facendo gli interventi su degli impianti di sollevamento. Ho visto ce n'erano un bel parcheggiati lì a San Pietro a Mare. E vabbè. Avrà la possibilità, il giorno della domenica, viaggio che l'ho fatto, io lavoro purtroppo, cioè i miei turni, quindi non posso neanche approfittare di quello, se no sono degli amici di io che potrei andare a fare fine settimana ogni sabato e domenica. Non fa perché il lavoro non lo permette, non fa. La pagata già. Quindi te l'hanno sistemata adesso la macchina? Sì, hanno tirato solo le regolature, e l'ha scattata i tre dentini. Sono andata addirittura la bacina si vede di dietro quasi, ho detto guarda che lo trovi la leva, la trovi la si vede di dietro. Che come si vede dietro? Cazzo, perché la bacina si vede di dietro quando la tira. E hanno dato il regolatore, boh, non so cosa sia successo, se poi mi ha detto la verità, non lo so, magari si è sganciato qualche cosa, il capretto, boh, perché io per la Usimondo non l'abbiamo mai inteso. Io stesso la sincetta come ha cambiato le ganasce Roberto Meccanico, perché quando l'ho presa per la mano tirava una pezza tutto in asso e lì sono le ganasce, capito? Quindi mi ha messo le ganasce nuove, adesso fa tre dentini, bello, frena benissimo, frena a mano, prima tirava di tutto su, si tira avanti, sono buone, devo cambiare solo la pompa perché per le olio, capito? Allora l'ho già comprata, e domani mattina vado, me la faccio cambiare, così tutta quella roba lì a posto, e si la guida il luce. E tu genio, cosa ci racconti? Sei a come mai? Non ho chiamato anche io alle 6:30 così, non ho 7:15 non mi ha risposto. 8:30 no, 8:30 c'è qui sotto, lì mi dice la banca lì. Adesso mi è 7:30, 8:20, porto il cane, sino alle 8:10, come ieri, 8:15. E poi spengo tutto e via, capito? Se ne vogliono oggi, non ce ne voglia, adesso inizia il tempo bello. No, non ce ne voglia, capito? E quindi è così, è così. Non vedo da Gianni, non ho tempo manco di andare in bagno, eh. Se la stai uscendo già alle 3. Cosa credo come farino io stasera, capito? Andiamo insieme. La compagnatura da beccare. Ah, proprio Giulio è sempre le piatte la mappa, ho capito. Ho capito. Va bene, va bene. Ma tu stai uscendo alle 3 però da lavoro. Sì, esco alle 3 e tra le 2 giorni. Il lunedì e giovedì esco alle 2. Campo gatto. E adesso questa 104 dovrete organizzarti anche i permessi settimanali. Oh, bravo, lascia perdere. Questa 104 articolo 1 che vado a fare prevede solo delle esenzioni da medicinali, eccetera, eccetera, esenzioni da ticket e certe cose, certi esami, ci sono 3 esenzioni. E basta, e boh, e poi non ti puoi assentare da lavoro. A quanto mi ha detto la ragioniera dell'ufficio personale, mi ha detto che non mi spetta nulla, nessuno di niente. Comunque io ho un amico che c'ha la 104 e ne è retribuita pure. Oh, ma 1, 104, gli danno 280 euro al mese. E l'invalidità? Dipende già, dipende dall'invalidità, però, dipende dall'invalidità, quella è un'altra cosa, però legge 104, per appunto il caso tuo, hai dei permessi retribuiti per fare visite, però stabilisci tu quello che devi fare, capito? Però hai 3 giorni al mese retribuiti, tu non vai a lavorare, sei pagato, è un permesso retribuito al 100%. Ma c'è internet, ma fa andare su internet e si guarda, che non ho avuto tempo in questi giorni, da prima. Fa andare su internet e scrivi legge 104 e si dice quali sono le agevolazioni e ti dice tutto. Ma la mia non è di quelle che devi fare le visite, c'è scritto non rivisibile, boh. Praticamente non ci devi ritornare a fare visite, capito? E con la mia buca, ci sono tanti tipi di legge 104, capito? C'è coma 2, coma 1, coma 3. E legge 104 è tutta fatta, però qui c'è coma 1 che prevede una cosa, coma 2 che prevede un'altra, capito? Sì, anche a me mi suona male, non era 104 quella già, perché legge 104 io la conosco bene. Retribuita solo il permesso, cioè tu non vai a lavoro e hai il permesso retribuito, come che stai lavorando, ti fai una giornata, non ti danno a livello tipo una pensione al mese, uno stipendio al mese, anche minimo, no, è un'altra cosa, non è 104, evidentemente lui c'ha la 104 per altre cose e poi ci avrà una pensione per l'invalidità. Sì, è nata lì. Ma se tu vedo che tuo fratello la prendeva con la 104? Il fratello non ha la 104, ma il fratello c'ha la pensione di invalidità, capito? C'ha la pensione di invalidità, proprio il 100% invalido, c'ha il diabete, ma ti ripeto, te l'avevo già spiegato, ha avuto un incidente. Il pulmino del comune di Porto Prove, se lo scolato, se ne ha missato in via Tre Sacchi, mio fratello c'ha il collo storto, l'occhio, un occhio più basso dell'altro, zitto, più mai muto, e quindi gli hanno riconosciuto la pensione di invalidità al 100%, ma è anche buona, tu prende lo stipendio, ancora lavorando, il prossimo anno va in pensione del tutto. Capito, lavora all'asilo, era a Sassari, Corte Santa Maria in ufficio, prima era a Porto Torres in cantiere, adesso è in ufficio, è invalido al 100%, prende la pensione che è anche abbastanza buona, sono 540 euro al mese, con lo stipendio. Infatti mio fratello non ha la 104, c'è proprio la pensione di invalidità, invalido civile al 100%, capito, riconosciuto proprio da tutto e da tutti, però sta ancora lavorando, dice di legge ogni anno col 730, no, lui prende la pensione di invalidità più lavora, dipendente regionale lavora. Scusate, dai, devo andare che c'è fatto qua, diciamo che dalla farmacia, ciao già. Sì, quella è così, io lo so, quella è così perché c'era anche mia suocera, capito? Era mia suocera ha avuto un aggravamento, quindi non poteva più assistere, l'hanno passata alla figlia, a mia moglie, l'assistenza al padre, capito? E quando lei si assettava dal lavoro, era retribuita la giornata, quella funziona così, poi a livello pensionistico è un'altra guba. Il fratello non ha legge 104, c'è proprio la pensione di invalidità. Ha pagato. Così è nata lì, così funziona. Nata lì. Cosa? Sì, io sono agente. Io ho detto così funziona, no? Io ho la 104 e ho anche l'invalidità. Ecco cos'è. Esatto. Tu ce l'hai la 104 e solo perché tu c'hai la tua pensione di invalidità, giusto? Giusto. A Gianni lo chiameranno a fare la visita per la pensione, di sicuro. Oppure se l'hanno già visitato gli manderanno il verbale a parte. A parte della 104, esatto, ma quello è un inizio infatti, l'ho già detto. Io ho già detto, ho capito, è così, funziona così. Vabbè, sono cose abbastanza delicate, cose abbastanza importanti per chi ha qualche patologia come Gianni, tutti i fesserì, diabete, fesserì, oddio, non sono fesserì, fesserì nel senso che si stanno accumulando una dietro l'altra qui. Va bene, chi è che voleva entrare? Buonasera. Buonasera anche a te. Vado a entrare in classe, tu sei il migliore. Vado a entrare tu, ma non ti c'è la risa. Ah, mi sento a me Cattania. Attenzione, sorso, avanti, se vuoi entrare. E buonasera, avanti, mi dica. Saluto, non mi hai sentito perché ti sei tutto strano, la verità. Comunque, segnale 6-7 oscillante. Radio 5, qui da questa parte è Sassari, Claudio Salviero, non io, quello che c'è a fianco a me, è vicinato, poi c'è la Talino Alfa 1, e non so se chi ci sia, comunque chi ti parla, Alessio, avanti, da Sassari sempre. No, ma io vi lascio, Antonio, può portare il cane, 10 minuti e sto tornando, c'è Natalino, c'è Eugenio, dai, giocate con la voce, già torno subito. Meglio del siciliano, c'è due scappellate, era ora. Buonasera Eugenio, saluto grazie a te. Mi hanno suonato il campanello, 2 minuti. Rientro subito. Quella è la polizia postale, mi. Magari. E a quell'ubriacone fragico di coso, di Macolino Condo. Coma, Anicette. Ciao Eugenio. Ehi. Io non sto entrando nulla mi al baracchino, ciao a tutti comunque, ci trovo poco e niente, mi sto dedicando alla lettura, mi sto dedicando, non dico al mare perché al mare sono andato una volta sola, ci sto entrando ben poco alla radio, ben poco. Io non ci posso fare niente perché tu sei un ubriaco come tragico. Stai uscendo male a Tarifa, l'ha detto già una decina di volte, con quell'apparato devi staccare il microfono dalla bocca, oppure se vuoi parlare vicino devi mettere il mic gay a metà. Lo so che sei un ubriaco nefragico, va. Non lo sai trattare quel povero apparato. E vai, cosa non lo so usare. C'è anche il mic gay in basso. Così non senti nessuno nemmeno. Cosa Marco? E niente baracchini. Ma io fatemi salutare a Marco, Giulio, io sono a portare il cane. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo. Ciao qua, buona passeggiata. Segnate i baracchini, ragazzi. Ciao Claudio, ciao Giulio. Guarda, si sta così bene senza baracchino. Un bijou, guarda. Né macchina né a casa. Figurati, non so per quale motivo. Non vedo tutta questa differenza. Se uno non vuole parlare non ne parla e basta. Ma il fatto che sia assenta o che ci sia sempre presente non vedo la differenza, Marco. Ciao comunque. Ciao Giulio, e beh, tutto bene. Certamente. Nel tuo già i 240 canali, sì. Devi andare sul 5 normale e poi alzi il pomello di una banda. Sei sul 45. Aspetta che guardo. Allora, noi adesso siamo sulla DA, no? DA, D barra A. Devi andare su E barra B. A metà praticamente. Posizione intermedia. K. Sì, è uno scattino solo, uno scattino verso destra e boh, sei sul 45, sempre 5 risultano come visualizzazione e display. Per esempio l'altro giorno c'era Claudio e Company sul 47, capito? Sul 47, stavano facendo DX con tipo camionisti, no? Io ho fatto carrellata e per sbaglio li ho beccati lì. E io infatti l'altro giorno ho attaccato il lineareto e ho fatto un po' di DX con gli italiani più che altro, perché non mi trovo bene a parlare con con gli stranieri, anche perché quelli vogliono fare l'ex, quello con un tratto denominativo, no? I gruppi Alfa Tango, tutti quelli là. Invece quelli italiani si fanno due chiacchiere così, come il tempo, come la stazione, di cose composte, capito? Ok, oggi. Va bene, adesso sai quando devi andare su 45 come devi fare. D'accordo, intanto ditemi se la radio è chiara, perché ho fatto una piccola riparazione al microfono stasera, perché ieri o anzi avanti ieri non era molto chiara, così mi era stato detto. Avanti Marco, mi senti chiaro il radio? Parlo il radio, il resto non mi interessa. Sì, chiaro. Ti ho sentito l'altra sera, non eri per niente chiaro. Era, come dire, camuffata la voce, non era la tua voce. Ti ho sentito l'altra sera, non era la tua voce, adesso è molto molto migliore, non c'è paragone. O più migliore, peggio. Va bene, ti ringrazio. Sono contento. No, c'era un piccolo falso contatto, ho fatto una saldatura ad un filo e per cui va bene così, anche io pensavo che ci fosse la batteria un po' bassa di carica, mentre invece sembra che ancora funziona bene. Va bene, Natalino, sì. Mi pare che ha gente, Natalino. Antonello, cosa sei in libera uscita oggi? Ha sparito, Pomponio. Adesso è come una cavalletta, salta da una parte all'altra. È sparito, E non ci sono io, a te è rimasto io. Ma stai sempre uscendo male. Noi non ti entra in zucca, no. Io devo comprare un microfono di favola. Perché a tenerlo in mano questa cosa mi si girano le scatole. Poi sei solo tu che mi dici che esco male. Io me ne accorgo. Me ne accorgo perché è come se fosse satura mi. Me ne accorgo, perché dovrebbe uscire limpido quell'apparecchio. Infatti quando ti allontani esce bene. Cazzo, vabbè, Pomponio riprende. E voi state andando al mare? Come vi state passando questi giorni? Adesso vabbè, il tempo ha cambiato. Io lo so, ero con Gianni che stavano facendo commissioni. Sono un po' di giorni, insomma, che gli sto dando una mano, poveraccio, c'ha quel piede, l'ho visto io con me, mamma mia. Si vuole salutare la mia signora. Ciao Marco. Oh, buonasera, ben sentita. Ma c'è una volta che non ti sentivo più. Perché non mi racconto tragico. Sto entrando poco. Sto entrando poco. Non sono il solo, però non sento nemmeno questi giorni. Di poco che ascolto non sento nemmeno Franco, nemmeno Alghero, Valerio. Forse c'è, ma è all'ascolto. Sentendo molto poca gente, qui Natalino si intavola perché dice ho speso tanti soldi per il baracchino, non c'è mai nessuno, giustamente. Ma non lo vendi l'ignoretto per la macchina? Come Natalino? Non lo vendi l'ignoretto per la macchina? No Natalino, quello serve a me, l'ho usato anche l'altra volta in DX. Costa poco, mi costa 40 euro più la spedizione, saranno 6 euro mi pare. La GPC te lo prendi, la Tri. Dammi anche un rapporto del segnale adesso, dai. Fai la cortesia. Sto uscendo con un dipolo. Avanti. 747 devi prendere, quello della CTE, sì. La GPC prendono quello. Ce l'hanno sempre la GBC, si chiama l'HF747 adesso, lo chiamano così, ma se vado io ce l'hanno. So se ne hanno adesso, però già li vendono, cioè non è, è meglio ordinarlo su internet perché ti dice lo ordino la prossima settimana, poi il prossimo mese, poi si incazza se gli dici se lo ordinate, dice quando lo ordinare solo quello. Se ce l'ha lo vendono direttamente su internet. Eia. E una volta te l'ho detto, per i cacciaviti atti induttivi, roba di 8 mesi ho aspettato. Io l'ho comprati su internet, in 3 giorni erano su eBay, in 3 giorni erano a casa, gli stessi. Ridicolo, demenziale già, demenziale. Conosciamo, dai, oramai è una cosa già rivista tante volte. Non conosciamo Marco, così. Diciamo che così è cosa vi vuoi fare. Purtroppo. Noi stiamo andando in farmacia, dai, ci sentiamo dopo. Devo ritirare le medicine. Ehi, un attimo, aspetta, comprami il Viagra, Gianni, anzi il Cialis, comprami. C'è la cosa, c'è la categerica. Ciao Eugenio, ci sentiamo. Ciao Eugenio, ci sentiamo. Ciao, ciao Eugenio. Marco, un segnale dammi, dai, fa la cortesia. Con un diplomo sto uscendo. E anche 9 più 20 sei. Questo smitter che non vale niente. 9 più 20. E l'antenna tua cosa c'aveva? Sempre cose da sistemare? Sì, ho sostituito, ma non ce l'ho piazzata. Ho sostituito il PL da pannello. Quello lì si era rotto, il centrale. Si era rotto quello e l'ho sostituito. Meno male che l'ho trovato uguale. A vite si attacca su quel dischetto che c'è in maniera zingata. E l'ho trovato lì da Fusano. Giusto, giusto, perfetto. E dunque adesso lo devo completare, dai, comunque l'ho tutta rimessa in ordine, diciamo. Devo solo saldare il filo, ma siccome non avevo il saldatore, stamane l'ho comprato, e dunque domani se avrò voglia o il tempo la completerò, però ancora non la piazzo. Al momento me ne rimango con questa, a livello pavimento, il polo a livello pavimento. Caspita, per essere a livello pavimento va anche troppo bene. Eia. Allora, quindi cosa ti già bene, non è? Ho detto in libera uscita, sì. Stamattina alle 8, guarda. Fino alle 6 di stasera sono stato giù. Mi sono pigliato queste poche ore che ho, poi alle 7 e mezzo vado a mangiare e poi rientro a casa. Mamma mia, le tasche piene ne avrete, mamma mia. Vabbè. Poi sperando che possiate avere davvero la ragazza pagata dal comune, sarebbe una grande cosa quella. Guarda, me la sposerei pure, non sono l'altra. Faccio tutto. In modo che sia tutti i giorni 24 su 24. Gira lui, in modo da sopportarmelo io, perché guarda, da ieri che ha girato di palle, non l'ha mangiato, non voleva la mangiare, non voleva le medicine, solamente la birra e la sigaretta, non voleva altro. Hai capito? Poi ha cominciato a rompere le palle e si è bevuto 3 tazze di sigarette e non 3 tazze di birra. Poi uno secca le sigarette, ma dita a me, fuma, fuma. Non l'ha capita, no? Non ha imparato, no? Ancora cerca la birra, dopo tutto quello che gli è successo. Ah, comunque la ragazza del comune, se la fate venire, fatela venire buona, capito? Così quando cambia, che si piega, tu guardi tutto, capito? Avanti Giulio. Non ho stato capito, il fratello di Antonello purtroppo non l'ha capita, no? Che la beuccia smodata fa male. Soprattutto quando è ghiacciata. Ehi, vabbè, dai. Allora Marco, dimmi, tutto bene comunque? Liu sta bene, non l'ho più sentita, sono mesi che non l'ho più sentita. Sì, sta bene. Vabbè, un po' la gamba le fa male. Per via dell'artrosi, come si chiama? Artrosi dell'anca. Qui o si opera o se lo tiene. Ogni tanto piglia di dolorifici. Lui deve andare al dentista perché forse si vuole mettere la dentiera. Dovrebbe avere 2 punti d'appoggio, quindi insomma dovrebbe avere punti d'appoggio per metterla. A me invece un incisivo si è filato, si è spaccato in verticale, cioè metà del dente se n'è andato via. C'è l'altra metà, però ho paura che si rompa. Quindi anch'io devo andare a farmi ricostruire un dente, dai. Quanto prima che ne scenda, perché sennò poi non c'è più materiale a cui appigliarsi per ricostruirlo, capito Giulio? Ho ok Marco, quindi va bene, tutte cose che si possono fare tranquillamente, basta la volontà, qualche migliaio di euro e tutto si sistema. Bene, bene, bene, bene. Ok, comunque, salutami lì. Sicuramente prima o poi si farà risentire anche lì. Almeno si saluta in frequenza. Comunque, sono contento che la radio è ritornata a quella normale, perché ieri, o anche avanti ieri, era proprio pissima, così mi stavano dicendo, sia Claudio che Massimiliano, poi me l'hai confermato anche tu che era l'ascolto, per cui sono contento che ho ripristinato questo microfono. Sì, sì, sì. Cos'è, MC? No, è il Sadelta Ecomaster Pro. Ah, l'Ecomaster Pro, quello sì che avevi comprato, era molto particolare come microfono, sì sì sì. E cosa è successo? La capsula si era rovinata o giù di lì? No, no, questione di contatto all'interno, un filettino che era attaccato, ma è come se fosse staccato, evidentemente vibrava anche e allora uscivo male, rauco, eccetera. L'ho messo una goccia di stagno, meno male che l'ho individuato subito senza stare lì a perdere troppo tempo, e diciamo che funziona bene. Con il nuovo soldatore l'ho inaugurato, dai. Ho sentito la ola, vediamo chi vuole entrare. Avanti ola ola. Ma cosa scrivi? Io ti stavo facendo dei filmati qua sotto casa. Dalla 11:30 fino alle 3 del mattino. Ho sentito qualcuno, ma purtroppo quello di propagazione ogni tanto me lo copre. Infatti non ho capito il nome. Giulio, cosa ti volevo dire? Ah, il saldatore, oggi da lì l'hanno portato di nuovo i saldatori, piccola stazioncina saldante, molto carina, è una roba bella. Oggi per esempio c'era un binocolo Auriol, un 8x60, cioè 8 ingrandimenti, le lenti da 60 mm, quindi un po' più grandi del normale, costava 27,99, 28 dai, come fosse 28. Io l'ho preso scettico, ho detto casomai lo posso restituire, invece funziona bene, non ha sfasatura d'immagine, mette a fuoco bene, però l'immagine è abbastanza nitida, è stato un bel acquisto. Conta che su eBay un equivalente, volevo il 7x50, l'avrei pagato 41 euro, e lì 28 euro ingrandisce anche appena appena di più, è anche più luminoso, quindi chi lo vuole, a chi interessa, da Lidl, binocolo 8x60, qualità passabile, naturalmente non escono tutti bene, ce ne può essere qualcuno che un po' ha gli occhi sporchi, diciamo, si può cambiare, io l'ho preso a caso e mi è andata bene, e me lo godrò in estate questo binocolo, dai. Come ho visto quello di Pomponio, il binocolo ero geloso e me lo sono dovuto comprare. Ok, l'avevo comprata la stazione saldante lì da Lidl e non mi piace. Non mi è piaciuta per il semplice fatto che la punta che salda, diciamo, è fissata da una vitina. Lì come si mette in temperatura la punta si allenta, questa vite l'ho stretta 50 volte ma si allenta e dunque non è perfetta. Ne ho preso uno, 7,80 euro stamattina lì da Grassi a Pedalieda, dove c'era una volta il vecchio Portobello di fianco lì, e devo dire che va molto ma molto bene, e la punta è fissata a tipo ghiera direttamente dal tronco anziché essere fissata con la vitina, che è una schifezza. E poi c'è anche la punta del ricambio, poi c'era anche una confezione di stagno, una piccola confezione da 22 grammi di stagno saldante, e più un barattolino piccolino di pasta salda proprio per pulire la punta. 7,80 e funziona in una meraviglia. Ho già provato anche PL che avevo con degli spezzoni eccetera, salda benissimo, non bene, benissimo. Ecco, sveglia. No, io invece avevo preso, non mi ricordo dove, se da Lidolo o se da eBay, avevo preso la basetta per il saldatore, era fatta in ghisa pesante, aveva quella molla elicoidale per inserire la punta del saldatore, e aveva il riquadro classico per la spugnetta. Non l'ho più trovato, ce l'avevo qui, l'ho usato qui, non l'ho più trovato, non ho capito dove possa essere finito. Ma la roba è come un buco nero qua, si perde la roba, scompare, capito? Perché ne so, ho visto anche, avevano quella sonda per tubature, un sondino per tubature flessibile con lo schermo a colori, tutto manuale, no? Se tu hai una telecamerina in punta con una luce e lo puoi inserire nelle tubature oppure in angoli piccoli nascosti per vedere insomma quello che cerchi. Naturalmente hanno scritto non usare in orifizi umani, ossia che qualcuno si facesse la, come che si chiama quella da dietro, la retroscopia, amico, quell'apparecchietto. Da cosa siamo? Vabbè. Allora, devo dire che questo costa pochissimo. Senti, io l'80, cosa sto dicendo? A differenza di quella stazione saldante che avevo comprato, poi ne avevo comprato un altro di quelli a pistola da 100 watt lì da Bicomen, meglio che mai, per carità. Guarda, poco fa, tutto per non prenderlo più in mano, ho preso e ne ho tagliato anche il filo, proprio perché non voglio buttare. Per cui no. Questo invece funziona. Intanto è marchiato Melchiuni, non è come quelli che vendono lì dai cinesi, questo è professionale, o perlomeno semi professionale, è sempre a punta così, eccetera eccetera. Ti sto dicendo che è molto molto efficiente. L'ho voluto subito provare sui PL, perché sui PL c'è da scaldare un po' di più, e funziona che è una meraviglia. Guarda, una volta che me lo caldo è tranquillo, fonde lo stagno in un istante, proprio perfetto. Più soprattutto quando lo stagno è sottile, ne avevo preso uno da mezzo millimetro di stagno, 0,5 millisim, mezzo millimetro, e si scioglie subito, è bello rispetto allo stagnaccio, quello stagnaccio brutto che si trova in ferramenta una volta, che poi non scioglieva nemmeno, era una cosa allucinante, quello era poi lucido, quello sottile, bello lucido e sembra proprio fatto bene. Per quanto poco saldo io nei Giulio, come non averne. E tu Antonello, che stagno usi? Che saldatore usi, voglio dire? Ok Marco, sì. Vabbè, ma comunque un PL dovrai pure saldare di tanto in tanto, no? E qualche aspetta che tengo questa musica di QRM del PMR che avevo in ascolto. L'ho anche dimenticato acceso. Stavo dicendo, sempre ci serve, perché prima o poi un PL dovrà essere fatti, è uno spezzone, una cosa, è una piccola saldatura, qualche filo, insomma diciamo che è molto comodo. Dai, questa volta l'ho indovinato, ripeto, ne ho comprato uno da Bicome, 11 euro e non serve un accidente. Io ho comprato quello da Lidl e non mi è piaciuto per niente, ma solo per il fatto questa punta che si allenta, sì, che allentandosi non è con il corpo della parte riscaldante, non entra in contatto perfetto con la punta, per cui non renderà mai, mentre invece questo è addirittura con la ghiera, tutto l'involucro della punta ne esce dal manico e va bene, perché non c'è quella vitina che appunto si deforma magari col calore eccetera. Va bene. Via. Poi vabbè, c'erano anche, che ne so, zaini per fare trekking, per andare al mare, sacchi a pelo, insomma, pure di tutto, arrivano queste belle offerte. In voglia di comprare, comunque il binocolo lo volevo, perché abbiamo tutti i binocolini piccoli, qui ingrandiscono troppo, quindi ti fa l'immagine, quello almeno ha pochi ingrandimenti, è più stabile. se per l'uso che ne faccio io ce n'è anche troppo. Quindi è stato bello guardare le imbarcazioni, guardare chi c'è lontano, insomma. Cercherò di trattarlo bene, perché se ci va un granello di sabbia, addio, uno schizzo di acqua salata sulle lenti te le rovina subito. Meno male che costa poco almeno, certo non è uno Thais, magari. Ok, Antonello, ci sei ancora? Sì, sono con Giovanna. E voi col binocolo ho detto, vieni tu, quindi, te lo regalo, ti ho detto. Anzi, se ce l'ho poco qua, te lo regalo. Tu mi hai chiamato Giovanna per scendere giù, vedere allora o fargli mangiare già piede e cose del genere. Sì, te lo prendi e quello è bello quello del binocolo che ho io, il professionale. Quindi, prenditelo, tanto io non lo sto neanche usando, ce l'ho qua a casa buttato. Antonè, me lo sono appena comprato, dai. Oh, quello tienitelo. Quello tienilo, può sempre servire. Ti che vedi di nuovo un altro UFO, le luci arancioni che avevi visto sopra Osilo. Non abbiamo mai svelato il mistero. Lo tieni e ci manterebbe. Io l'ho già preso, adesso sono a posto. Ma con la questione di Marco. Marco, davanti, guarda che... Sì. Ti danno il binocolo. La cinghia, la custodia, con cinghia, coppie oculari, coppie obiettivi e non è più per pulire. Vediamo se questo di notte. Mi fa. Mi fa tutto la coppia adesso, mi fa 50 euro e 15. Cioè, bello, ma veramente bello. Come Natalino? E devo andare alla GBC per vedere se trovo quel 747, perché stavo parlando sul 45 e non mi sentivano dalla macchina. Lo so, ma in propagazione o in locale? No, propagazione, in locale già ho trovato uno che c'era lì a Predanieta, già mi ha sentito. E come se mi ha sentito? Sì, è molto utile, poi manda laterale, non te ne dico, mi è molto più utile manda laterale. È una bella bestiolina, dai. Naturalmente dentro dovrebbe esserci un, come che si chiama il mio, un RM Italy, dovrebbe essere uguale dentro. Se tu dentro il 747 trovi un RM Italy come il mio, però forse è un po' più stabile il 747, quindi ha ragione Gianni a consigliarti quello. Prova a chiedere se ce l'hanno, con il prezzo che ti sparerà, mamma mia. Sì, mi spara il prezzo più di 40 euro, biglio con me perché mezzo da paura. A fare io. Sì, cavolo. Non lo trovi? 60 euro costa lì dalla CBC. Io l'avevo comprato tempo fa, adesso costerà anche di più. Me l'avevo fatto fuori il lampo una volta, il fulmine. Per cui 60 euro costava quando l'avevo preso io. Però non lo vedevano fuori a meno di quella 55-50 euro. Cioè, meno, sì che ci aggiungi il trasporto e siamo sempre lì. Capito, Natalia? A me non mi dice cosa sui 40 euro, non di più. Il mio, l'RM Italy KL203, costa sui 40 euro più 6 euro o 8 euro di spedizione, non mi ricordo quale dei due. Il 747 costa già di più perché è Midland. Però pare che sia più stabile, cioè quando io lo mettevo in macchina mi andava in auto-oscillazione. Invece il 747 di Gianni, che anche lui usa in macchina, non gli va in auto-oscillazione. Quindi forse è meglio puntare sul 747. Sì, costa da internet almeno 50 euro pieni più la spedizione, quindi nel GBC siamo pari e passa. E adesso vediamo cosa mi spara. Anche quello è un pazzo, non hai visto l'antenna quanto la volete. Ma scusa, da internet è la stessa cosa. E minuti aveva billi 60-65 euro e poi tanto di spese di spedizione, per quello è un pacco lungo, è lungo 2 metri il pacco, quant'è? Alla fine siamo per ripazza. Vediamo un po', adesso mi devo buscare la carta perché quella lì non mi va di usarla. Perché io non ho la carta per andare su internet, mi si girano le balasse per quello, adesso me ne faccio una. Ma fai una telefonata e glielo dici che non hai il computer tu, quella te la frega, te la mandano lo stesso. Aspetta, ho fatto io così, fai una telefonata direttamente dove vuoi comprare e non si sconcia, non stai tranquillo. E vabbè, farò così. Gli dico il computer, non ne ho. Ho la talia, ma tu puoi navigare, sì? Sì che posso navigare qua. Quindi ti serve cosa? La carta per fare acquisti? Allora, una carta, quella che ho, che uso, lo stipendio che usavo nel comune non la do su internet, no. È della banca, quella. Fatti una prepagata. Una prepagata, puoi fare la PayPal alle poste che vale in tutto e per tutto come carta di credito, oppure vai al Monte dei Paschi di Siena e ti fai una prepagata. Non devi avere conto, solo prepagata. Ci sono tante cose, puoi fare la carta PayPal, sono tutte valide, sono a tutti gli effetti carte di credito. Quindi puoi comprare sia su internet che nei negozi anche. E infatti, farò così. Fai come ti sto dicendo, vedi tu il contrassegno e basta. E te lo mandano, hai già fatto io più volte, l'ho fatto anche da poco, per cui se te lo mandi basta, lì, così quando ti arriva la merce paghi, se ti sta pagando anticipatamente, insomma, te lo dici, io computer non ne ho, non saprei come fare, per cui non posso fare ordinazioni e non posso fare niente, non ne ho di carta, non ho niente. Se me lo mandate tramite il contrassegno va bene, non ci sono problemi, capito? Penso se non tenzi la parte lo tendono in retini, non tenete. Infatti. Ma loro sono restii a fatto un contrassegno, sai che gliela rimando indietro, capito? La merce non la vogliono mandare per quello un contrassegno, infatti te la fanno pagare di più se accettano il contrassegno. No, e allora hanno trovato il sistema, voi glielo dici, mi viene il numero di telefono, gli mando il mio numero di telefono, gli mando un sms tramite WhatsApp, è la stessa cosa, amico, non ti credi? Ho dovuto aggiornare WhatsApp perché non mi funzionava più. Fatti il conto. Capito, Natalia? Dice, guarda, io l'unica possibilità che ho, o me lo manda, o compro un contrassegno, o perlomeno, guardi, se proprio lei non si fida, io le do il mio numero di telefono, anzi ce l'avrà anche già lì, e gli faccio un ordine tramite WhatsApp. È vero, alcuni non si fidano, molti vogliono i soldi prima, addirittura bonifico bancario, se loro finché non hanno i soldi in tasca non spediscono nulla, perché sai c'è molta gente che ordina il contrassegno, poi si ripensa, si pensa e allora dice no, non è ritiro, e loro si devono pagare le spese di spedizione. Vabbè, dai, prova se c'è la GBC, tanto mia, la GBC ho comprato da internet, è la stessa cosa. Ah, peccato che non c'ho l'omologato, grazie, io mi ho messo Ghisumi in macchina, capito? L'omologato ce l'ho fa, questo Voldatex che non si abbiamo un tubo, se me lo metto in macchina non si fa nulla a me stesso. Devo trovare un apparecchio insomma che sia... Non c'è... E fate riguardata, a chi si gira il manico? Ecco Bagos. Io stavo starnutendo forte, stavo preso freddo. Grazie per la chiacchierativa, ciao Natalino, e vedo se ci sei ancora in ascolto. Saluto a tutti, io chiudo, ascolto il Filalino e chiudo, vai Marco. Giulio, dimmi prima che ore sono. Esattamente le 8, esatti, esatti. Ah, ok. E se ero senza orologio, sì, il pendolo è fermo da secoli, ok. Bene Giulio, dai, buona cena, buon tutto. Ci sentiremo non so quando, dipende, quanto entrerò in radio, dai. Oggi ho voluto fare un po' di radio, sennò poi se ne vanno tutti e si diventa vuota come anni fa, vuota proprio. Ok, beh, io a causa dell'antenna appunto ero un po' di tempo che non modulavo, ma diciamo che da avanti ho messo su questo dipolo, per cui va bene, dai, funziona, funziona. Alla grande, ci sentiamo, ciao Marco, ciao Natalino, ciao Alfredo. Nessuno si è chiuso. Ciao Giulia, ciao. Ah, Natalino, guarda, domani verso le 10:04 sono lì al solito posto. Sempre ciò, fatti una scappatina, del tuo metro, il ponte, quanto è lungo? 200 metri. Verso le 10:04 sono lì. Se non ci sono io, ci sarà già Antonello. Sì. Vediamo se ce la faccio. Provate di sì se vado alla GBC a vedere se trovo quella roba lì. Ok, vabbè, grazie. Ci sentiamo, ciao ciao, a domani. Ciao ciao Giulio. Ehi, ciao, ciao. Stasera ce l'avevo il baracchino in macchina. Sì, lo sai che non trovo la concessione io. Starizza. Era in una busta da lettera gialla, piccola, no? In una busta da lettera gialla, non la trovo più. Non so dove cavolo possa essere finita. Vabbè, ho fatto più fotocopie, varie fotocopie, ho anche l'altro bollettino, sto tagliando, quindi non succede niente, ma non capisco dove possa essere finita. Sì, io lo stesso ho fatto la coppia, ora c'è la macchina e una qua. Antonello, ci sei? Pomponio, ci sei? Non c'è, ci sono io, sono vicino di casa. Ti serve qualcosa? No, perché mi sta venendo un dubbio a me. Se quando gli ho portato quel bustone con l'apparecchio non ci fosse la concessione dentro il bustone con il quale portavo i baracchini in macchina. Tu trovo la concessione. Beh, ho fatto numerose fotocopie di tutti i documenti, quindi non posso fare 10 riconcessioni, mettere una in macchina, una in casa, eccetera. Però volevo quella. Io invece c'è la fotocopia. Guarda, la fai autenticare, cosa deve fare? Il capito. Cesce Maria Gare. No, pastore, male in mano, guarda. Migliati ci sono, due volte di lui, da sotto, da sopra, a terra, che scio Maria Gara, le braccia te ne stacca, e tu ho portato la Natalina. E mi è appena salita mia moglie, l'ha portato tardi, allora sei giocando con la iatta. Mi croce, è finito, stava giocando con questo, non cucciolo lì, ma grande mano, che scio Maria Gara. Ma c'è sotto Filippo, è di una ragazza, ma molto molto bravo veramente, infatti non mi avvicinavo mai perché pensavo fosse cattivo invece della missione con il cane, mi aggrappo si butta, e si battere male mai, in giù le mani. Ehi, ce l'avevo io, me l'ha fregato un pastore, ragazzi. In campagna non ce l'avevo il mare in mano io. E se n'è andato con le pecore, gli piaceva di più stare con le pecore. No, questo è molto bravo, stavo giocando con Filippo, ogni tanto si morsicava, però giocandola. Non balla candy, il cadavere è morto, ciccione, se davvero va via Ido. Guarda di lui, agilità, ecco, li passava sotto. Molto cadavere. Marcolino Tondo, come sta a posto, sì. Ehi, ma quello cos'è? Respiro affiatato del cane, come dire. Respiro veloce. E se ne sta salendo. Non si. Quel cazzo pancia all'aria. ho fatto quasi più che vado. Io sarà pure più agile, ma si ribigliava anche lo vasicaggi a cabatella. Tipo, non hai compreso? E infatti io temevo quello, ma no, anche mia moglie ci gioca anche altre volte, però io non mi avvicinavo molto, no? Quando l'ho visto arrivare, no, siamo tanti per favore, non si sa mai, no, no, si conoscono. Infatti piano piano ci ho avvicinato, ho visto scondito, erano tutte e due, quindi tutte e due al guinzaglio però, ho messo il guinzaglio al braccio, l'ho tirato corto, lo tenevo così, ma mi ha cercato il guinzaglio, che giocavano, capito? Si giocavano a destra, a sinistra, a terra, sotto, infatti il dritto che passava sotto, così girava, e sciuga, ma grande, non ho mai visto queste grandi, di sciuga. Posso rimanere in mano è un braccio. Ma se non hai visto San Bernardo, si vede San Bernardo qua su chi? Queste con le fotografie qua del San Bernardo sono spaventevoli, lo vi sia una rara lì, alla Camera di Commercio, cazzo, roba di cani. Io so, già conosco San Bernardo, ce l'ho con Mario Babbo Natale. Ma non avete due? No, ma queste che abbiamo fatte, infatti questa ragazza c'ha il giardino, capito? Pioggio, un bel, isso Maria Gara, ho avuto tutto spazzolare a Filippo, è tutto pieno di bello, Filippo è però corto, una pelle, qualcosa, ma un cane così come fa a tenerlo a casa? No, assolutamente. E quindi, Marco, a Pantamona ci stai andando? No, una volta siamo andati, lunedì, non questo lunedì, l'altro. E basta. Così commissioncine, sto leggendo di più, infatti l'ho vista, mi sta andando via. Mi sto entrando un po' meno al baracchino, eia. Ma volevo dire, ma il più grande non è in Terranova come cane. C'è uno che ce l'ha qua, è bello nero, ma sembrano Yeti, ha una testa impressionante mi. E ne avevamo due al soccorso sardo di quelli, però sono più bassi del pastore maremmano. Il pastore maremmano è alto, è alto, più alto, è più grosso forse il Terranova, ma il più grosso è il pastore del Caucaso, quello è un demonio, tanto non mi ha mano sul gatto. E ma sono belli anche i maremmani, se sono tenuti a casa, capite, in giardino, che sono puliti, questo è bianco, bello, io che rossicci, molto bello. A me me l'avevano regalato, ma è un mostro il pastore maremmano, alla fine poi se ne è andato la Ghidubassori, la Ucci, se ne è andato, non fa più voluto durrà, li piace a i biguri, cazzo, dove ti dica, e ti fa con tutto io il pastore maremmano. Ho preferito le pecore a Natalino. Cosa, ma? Preferito le pecore a Natalino. No, non è quello il problema, è che lui è nato per quello, le piace molto stare in mezzo alle pecore, capite? È proprio nato per quello. E quindi ho avuto l'occasione, ho detto, beh, digli a dire il nome della vostra mamma, ciao. Eia. Ma che non sia grosso anche il prese canario che mi ha fatto vedere, mamma di turchi, alto quanto un cristiano, se si alza anche più già le zampe sulle spalle, mamma mia, se si incavola quello, ciucciù. Oh, se il pastore tedesco cazzo era più alto di me, quello che c'avevo io quando si alzava a due zampe, io mi mettevo la mano sul petto e lui subito a due zampe, cazzo, più alto di me era. Vabbè che va fuori faglia pure, ma fazzugna bastone tedesco. No, ma il pesacanario di mio genero non c'è bastone tedesco che tenga, 70 kg alto, dritto più alto di più di 2 metri, una testa strana. È praticamente è un coso gigante, è sempre un rosso, capito? È un tipo un mattino napoletano, una cosa del genere, però molto più alto, un grosso. Allucinante, no, quello guarda, quello è meglio evitarlo, educatissimo quel cane, lo tiene senza guinzaglio, lo porta senza guinzaglio, non si avvicina ai cani e lui non si avvicina, però se ti avvicini sei perso, uno lì alla teloce, mi ha attaccato la testa, l'ha dato un osso, l'ha preso sotto il collo, morto sul colpo. Solo che avere quei cani non è come avere un pedigrane legali. Come avere casini, mi serve casini, passare casini. Cioè, che proprio avere cani del genere? Un cane normale, allora quelli che hanno i diti un po' già presi, quelli sono aggressivi proprio. Questo è un bravissimo cane, però devi vedere lei, non è che tu hai un cane e te lo curi un altro, no, lui non ti cerca e tu non devi cercare, perché se vai a cercarlo si gira immediatamente, non ti dà tempo manco di muoverti, capito? Perché è un bealto, quindi va pigliato da solo, a parte il fatto c'è una mandibola peggio il bulldog inglese, molto più grossa, la testa è molto più grossa del bulldog inglese. E un cane da stare molto attenti, però non cerca nessuno, infatti si chiama Giuda, capito? Non cerca nessuno, ma lo devi cercare, se lo cerchi lo trovi. Un padrone tedesco era senza guinzaglio, è partito come l'ha visto, e lui cammina a fianco a Mario, camminando a fianco a Mario, non se ne è manco accorto Mario, gli è saltato sopra, si è girato, distinto, l'ha pigliato con la mole godo e l'ha fatto saltare in aria. Volato! Minchia! Com'erano le normative? Non bisognerebbe tenere comunque tutti i cani al guinzaglio e certi anche l'uomo seruola, quelli un po' stravaganti. Non ce n'è seruola per questi cani, non ce n'è, delle buone cagnare, ci sono quelli a laccio. No, ti ripeto, non è, il mio non c'è nella lista, io ce l'ho la lista dei cani che si devono tenere in una certa maniera, il mio non c'è, neanche quello lì, neanche preso a Canaria, sono i Pitbull, il Rottweiler, il Doberman, poi cosa c'è? Un altro cane, c'è gli occhi rossi Natalie, che c'è Eugenio, come si chiama? È sempre morosso, il suo è malo, Il demonio? No, il è un bello meccanico, però un bel aggressivo, sempre la categoria di Pitbull. Poi Eugenio ce l'ha. Era qua prima, chi se lo ricorda? Cosa può essere? Bull Mastiff, no, non me ne intendo. Falcone quello era. Ah, Bull Mastiff è bravissimo. Terrier mi sembra, Bull Terrier, se non mi ricordo. Comunque è un cane di quella categoria lì. È della categoria di quelli. Ma il mio non c'è assolutamente. Certo, se è Filippo è bravissimo, è educatissimo, però se tu le rompi le scatole si gira come tutti i cani e a mandibola penso che siano i bobbi, capito? Ma ce n'è uno che ha la mandibola proprio più grossa della sua, ce l'hai Eugenio comunque quel cane. Antonello, che mezzo fa? Una curiosità, io quando ti avevo portato quell'apparecchio, te l'avevo portato in una busta, no? Tipo un bustone di spesa, no? Non è che hai trovato dentro una busta gialla, no? Con la concessione dentro, perché non la trovo più. È da un po' che non la tocco, non la trovo più in casa, e macchina nemmeno. Stavo pensando di averlo lasciato in quella busta dove portavo i baracchini. Tu non hai trovato niente nella busta, no? La busta era rossa, ho trovato un'antenna, cioè la V, non so se sia V e U, e in pratica ce l'ho qua conservata, infatti è della... Aspetta, te lo dico subito... Uniden. Un'antenna in gomma Uniden? Sì, esatto. Non me lo dire, no. Sto impazzendo a cercare anche quella, Tone. Osserva, mi chiede lo scanner. Vabbè, comunque busta per lettera non ne hai trovato, no? E chissà dove cavolo, deve essere finita dietro il letto, non lo so, comunque c'ho numerose copie. Prima di spedire tutto avevo fatto numerose copie, anche della ricevuta del giorno, quindi c'ho anche l'altro tagliando, perché ormai le ricevute ci hanno due tagliandi, quindi non cambia nulla mia anche se non la trovo. Lui la spunterà fuori, la salterà fuori. chissà se Antonio cosa ha mai detto l'antenna unide. Trattava come se fosse d'oro quella, mi? No, io ti ho dovuto dire che era qui. Infatti quando passavi qua te l'avevi anche data, lo sai, la mattua. Ho trovato per sbaglio quando ho sceso in garage, questa butta qui, con questa antenna, però non c'era nient'altro dentro, capito? Ho detto questa antenna qui è di Marco. Ho detto, la metto a parte, sta per un momento lo toglierò là. Gliela do. Perché c'ho anche un coso io qua, un ricevitore che tanto non sto usando, se la piglia il culo. Fa un converter si chiama. Ci mette le batterie in pratica su un barattino della 27 ricevi da 145 a 900 mega, quindi sono agganciata lì. Quando lo vedi c'è la potenza di due. Ah sì, me li ricordo i convertitori. Sì, se li ricorda Claudio. Oh Claudio, quando c'erano gli scanner normali, no, VU, i telefoni erano in chiaro, capisci a me, no? Vendevano i convertitori, permettevano di attaccarvi sull'antenna, no? Sull'antenna dello scanner, quell'antenna la mettevi all'uscita di questo orecchietto, che permetteva di sentire i cellulari ritrasmessi, diciamo, convertiti in bande VU. Me lo ricordo, la Intel che mi pare ce l'aveva in catalogo. Questa è 145-900. Sì. Dei tempi quelli, tutto in chiaro era, mamma mia, pure che quando ci penso. L'età dell'oro, lo chiamavo io per l'ascolto, l'età dell'oro, tutto in radio, tutti i servizi di tutti i tipi c'erano. È finito di rubare il mangime tu? Cioè questo gatto non mangia mai, però va a rubare dalla busta del mangime, è una cosa incredibile. Praticamente in chiaro, per capirci sono rimasti solo i cicci, no? Sì. Quelli sono in cripto vocale, quelli sono in digitale, i vigili urbani, so che quelli quando c'è qualcosa di delicato, chiama via filo, quindi niente da fare. Bello. Vabbè, vigili del fuoco mi sembra ci sia ancora. Il resto è novia, prima si ascoltava tutto. Allora invece siamo proprio 0 sotto 0. Sì, infatti, io mi ricordo il Black Jaguar. Ma guarda, quanto mi era piaciuto quell'apparecchio, non te lo puoi neanche immaginare. Tutto prendevi, tranne, vabbè, i 900 non li prendevo, prendevo VU e la VHF bassa, no, 6688. Ma guarda, era talmente simpatico quell'apparecchio, qui aveva molto di comodo, che potevi impostare i limiti di espansione. No, tu mettevi 144 mega, premevi tasto limite meno, mettevi 146, le mettevi limit più, c'era il tasto, lui faceva solo da 140, cioè potevi programmare i limiti di banda con una sola pressione in tasto, era un bijou era. Poi va bene, sono venuti tanti altri, tu ce l'hai sempre, no, però non funziona, così è. Non accende, è nuovo non accende, mi devo ricordare di controllare che cos'è, nuovo, è ricezione che non c'ha quella cosa. Dentro casa con l'antenna sua, quella tutta con la spirale, tutta spiralata in gomma, non lo sai quanto riceveva? Lo so, sì, quell'antenna elicoidale, ricordati, l'attacco dell'antenna era TNC, Tango November Charlie, era diverso dagli altri. Aveva una bella sensibilità quell'apparecchio mio, me lo ricordo, aspita. Tempi, più c'erano anche sia i cordless che i cellulari in chiaro, i cordless prima erano 46-49, ti ricordi Antonè, oppure 49-70, oppure 49-1-8, mi sono passati sempre in chiaro ai 900 MHz, sempre in chiaro, ce l'ho avuto anch'io in chiaro. Poi come sono arrivati i digitali, addio, fine dei giochi. Guarda che qui così ci sono ancora, ho visto uno l'altro giorno, stavo facendo giù qua vicino. e sentivi tutti i colori di corna, di... io vedevo anche il segnale. Quindi un giorno uno che era a Sassari era a fondo scala senza antenna, mi stava dicendo alla donna, sono a Coso, sono a Nuoro. Quello non era l'uscita ponte, quello era l'ingresso ponte. Io ho sentito il segnale emesso dal cellulare, mi stava dicendo balle a una, dicendo che era non so dove, a Cagliari, lui c'era a Sassari, sui corna, distici a sangue, X di più, chiaramente. Viene voglia di piangere pensando come adesso, tutto in digitale, tutto silenzioso. Quelli erano quelli che ci avevano anche usavano in macchina, no? Sì, allora, quelli veicolari tipo prefetto, no? 460 e spiccoli megahertz. Sentito anche quelli, rispondeva il prefetto, quello, ah buongiorno eccellenza, ti organizzo. Si dicevano di rimanere, sì, tutti i signori, l'impresario aveva il telefono in macchina, capito? Ma poi c'è tutti, invece di questo telefono, c'è questa pure la macchina. Ah, poi mi ricordo che quelli veicolari grossi, no, che usava il prefetto, avevano lo scrambler in versione di panda per non farsi sentire, no? Io ci avevo quel kit della INSEC, che era un praticamente del scrambler in versione di panda. Lo attaccavo all'uscita a cuffia del ricevitore, lo regolavi con il trimmer che aveva e riusciva a sentire l'inversione di panda in chiaro. Lo vendeva la Intec, il kit, un circuitino. Mamma mia, che storia, guarda. Guarda. Abusivo, si dice, abusivo. Abusivo. Adesso con Pupponi abbiamo deciso che ce ne andiamo in digitale anche noi, così tutti gli altri schiacciano. Sì, quello sì, un po' sì. Andiamo lì, promessa fatta, dov'è? Vai, vai. Già mi seguo io, non ti preoccupare. Io faccio sempre trovato digitale. Ma lo standard non so se è lo stesso. E poi lo sai che certe volte devi comprare apparecchi uguali per riuscire a sentirsi, se no non riesci a sentire tra marche diverse, perché in realtà anche se c'è lo standard, certe volte lo standard da apparecchi di marche diverse non prende, ci vogliono gli apparecchi uguali. Ma ti ho sentito l'altra volta che vuoi montare un ponte di PMR, ci uno mette un cazzo male del vetro. Ah, Pomponio. E allora chi? Ci ha doppiato. No, la verità, Claudio, il ministero ha detto che in realtà non sarebbe legale, perché il mono, cioè non è una frequenza in uscita o nell'entra, è mono. Cioè, per essere legale devi mettere un PMR omologato. Una volta che tu metti un PMR omologato, il pappagallo di per sé non viola le leggi, purché l'apparecchio sia omologato, cioè un PMR veramente omologato. Invece Pupponio lo vuole fare col quadripanna. Come ti va, te lo vuole fare? No, aspetta fuera, no, lo voglio fare col coso, come fai, che c'entra, scusa, non lo posso quadripanna, no? Non ti posso fare la foto se vuole, lo sai anche tu, a fare la ponte, io voglio fare solamente il coso, il fatto che non ne parlo più di quella roba lì, capite? Solo l'avevo usato, perché è bello, cioè avere una cosa del genere, bellina, un ripetitore che ti ripete quella roba lì, hai capito? Non è che c'è un granché, però per 5 watt va bene. Non lo puoi usare, devi usare i fatti consentiti alla legge, siete tutti abusivi, siete, hai capito? Siete tutti abusivi, tutti con i veicolari, con il buon fenghe, tutti con un portatile non omologato, un desivato, 8 watt, vi denuncio tutti. Ai caro, io te lo appoggio. Tanto un paio la giuria registrati, no, non la cagli di sto usando il veicolare che ho 50 watt, che batte con 20 watt. Radio registrato, qui non ci sa mai, mettiamo gli atti. No, a parte gli scherzi, comunque gli apparecchi digitali, anche portatili, costano un caccio di batterie, ma un caccio di soldi. Abbiamo visto quelli cinesi, come si chiama? Tipera, Ipera, e anche altre marche della TYD, è un casino. Non so nemmeno se siano affidabili, ma sono di buttatemi. Ma il mio portatile c'è il vostro, amatoriale, solo quello, è l'ultimo per fare l'uso portatile, capito? Lo fa invece lo giocato di roba cinese. Non detta, quello che io, quello di amatoriale sia VKU qui di base, no? Io in PMR non c'entro con quelle potenze lì, perché la legge è uguale per tutti, anche per me sono dei mattoni, quindi facciamo quello che vogliamo. Non è andato da giudizio, perché non già me lo metto in cartella, non si sa mai, è tutto che esporre. Ricordati Claudio che le leggi sono fatte per essere infrante. Le leggi sono fatte per essere rispettate, hai capito? Non lo pirattone, io non sei altro. Abusivo! Io sono anarchico. Abusivo! Aspetta, siccome io mi sono pigliato il trasmettito del FM, Claudio, l'altra settimana, quindi metterò musica. Ti chiamo e vediamo come arrivo a casa tua di segnale. Omologato naturalmente, per questi tuoi. Lo sto facendo arrivare dalla Cina. Ma musica radio, devo accendere la radio. Esatto, si mette musica anni 80. Bella, quella che piace a me, che è pieno di capri. Non sono degno di te. Sì, ma vedi tu quella passione, io mi ricordo, ce l'avevi sempre, perché anche quando eri via Rezzetto avevi una radio, insomma, mandavi musica, se mi ricordo che frequenza era, poi ce l'avevi avuta la passione, e non è non fai turmare a nessuno. La trattatura del PMR è una cosa che sta girando un po' in bocca di tutti, perché su quelle frequenze lì, fino a quando trasmetti con potenze minime va benissimo, nessuno ti dice niente, ma quando usi potenze alte, a parte che non le puoi usare, non puoi neanche tenere le radio con quel tipo, perché ricordi, non le puoi tenere, neanche portatili amatoriali puoi tenere, tipo Voxion, tipo Wafang, eccetera, eccetera. Ci sono frequenze molto molto delicate, come i vigili del fuoco che sono molto vicini, perché anche i vigili del fuoco la frequenza non ce l'hanno a 446, adesso non mi ricordo, comunque lì. Secondo che cosa usi, e poi puoi creare problemi, e alla fine galera. Quello la gente non capisce, sono tutti fissati un dico BMR, usalo, ma usalo in maniera normale, in maniera dove non puoi danneggiare te stesso, danneggiare gli altri, capito? Perché in tante occasioni a livello amatoriale ho sentito parlare di queste cose. E purtroppo a me poco mi interessa. Mi hanno chiesto, io faccio finta di niente, capito? Sino a quando non mi spremono io, quando mi spremono io, cioè allora toccano a me, allora c'ho l'elenco con via indirizzo di tutti quelli che hanno il DMR, modello e marca, capito? Quindi qualcuno si è già fotografato tutte le antenne e ha detto sassolia, lasciate la leggere e scrivere, ma a me poco mi interessa di fare queste cose. Io sempre dato il consiglio, qualcuno l'ha accettato, qualcuno no, poi quando la gente striscia, come si dice, scivola nella buccia della banana e si fa male, sono problemi suoi, a me cosa me la frutti. Io quello che ho a casa mia è tutta in regola, quindi non me la frutti nulla di latte, però se la gente non lo capisce che può farsi male, allora di cosa si muove i denti. Sì, non fa pazienza, non fa niente, sei grazie a me. Mi sono detto appunto soccorso aspettare, che cavolo, io una pastiglia e senta mi diceva quello. Non è alza la voce. Ah, così basso di voce sono le soci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ha cambiato, non ho cambiato niente mi. Volevo dire una cosa, che quando lo usava Marco con la radio, riusciva molto meglio di te, lo sai. È proprio un problema di voce che c'hai tu. Ho ritrovato il sipo che vende il chiavetto adattatore da Leisio Tokin di quell'apparato a 4 poli per poter mettere un microfono da palmo o da tavolo diverso. Ci sono tutti e due, questo cazzo di cavetta, un cazzo di microfono, subito c'era al ristorante che è il suo che c'è qui vicino, e ce l'ate insieme a me e poi ci divertiamo. Adesso per il momento non posso fare niente, sono bloccato, non posso fare nulla, sono fermo, ma non per cosa mia, ma per cosa è una burocrazia e cose del genere. Volentieri, come prima, ci dovevo fare tutto, purtroppo sono bloccato, e sono volentieri qua. No, era per informarti che avendo il cavetto già pronto per evitare di bruciare tutto e attacco, sai, tipo questi, mi sa la stessa polarità di questo apparato, è tutto lì, dai. Io dove siamo rimasti? Natalino, riprendi. E dove siamo rimasti? Cosa, tutti abusivi, c'è niente, non ci parlo con voi. Attualmente Natalino, attualmente, eh? Ricordi, 20 anni di pirata abbiamo fatto. Con Natalino. Prima che c'era prima poi, l'Italia, Sant'Antonio. Avevo più roba da prima che adesso. Poi alla fine mi sono deciso che ne avevo le scatole piene di trovarmi a Pira, se seduto con la sedia aspettandomi nel grande cancello di casa. Sarebbe stato un coso, naturalmente, sarebbe stato un taurino, l'ombrellone con un pilo originale. Allora, c'è prima che era, da me l'Antonello, l'Antonello da me, che sciuga. E trovo a casa, allora me la fa per dottore, ti ricordi che salivo la prima tappa da lì a te, sotto casa tua, faccio la birretta. Ai 4:30 partivo per Ottorge, lasciavo la tonnella, la berretta, poi rientravo, roba la macchina, la camionetta parcheggiata sotto casa. Buonasera, buonasera, lì stavamo aspettando, e quindi siamo saliti, salite, tanto quello che avete visto l'altra volta, sempre lo stesso. Beh, erano abbastanza umani, no? Umani? Mi ha detto, guarda, facciamo una cosa. O vai, te la prendi questa paletta patente. Se no, alla prossima volta veniamo e ci portiamo via tutto. E lì non tocca niente, non tocchiamo niente, va bene. E facevano sempre il verbale, però, sempre, il verbale di controllo, e multa non me ne hanno mai messo. Ha detto, oltre che sono giunti, sono già l'animatore, quello più a zero. Avevo rimesso tutte le radio, c'avevo 9:40, di tutto c'avevo UHF, di tutto e di più, c'avevo più roba prima che adesso. E quando sono arrivato l'ho entrato sotto Gaglia, sono saliti, adesso sono in regola, sono saliti, ho guardato la vincetta, allora c'era la patente ordinaria, no? E quella speciale. Avete il volo più a zero, le radio, quelle HF, le deve togliere, non le può tenere, come lei mai sta prendendo la patente, me l'ho presa e adesso vuole ancora togliere le radio, no, deve prendersi quella per le HF, quella per le HF lo prende, e queste le posso tenere, sì, le VLU le può tenere, però le deve usare a 10 watt, ma queste hanno 50 watt, allora non vanno bene neanche quelle, cazzo, ne ha casino. Naturalmente la voce di suicidi l'UHF e c'era Walter, no, c'era lì e noi facciamo la macchina sfaglio, cazzo, anche qui sì, si butta tutto. Siamo una cosa allucinante, i soietti che viene allora. E intanto Marco, fortunatamente io siccome sono stato in Marina, ero imbarcato prima a Livorno su Vittorio Veneto ed ero radiotelegrafista, quindi non sapevo niente io. fate tutte e due. Quando eravamo lì allora, ma allora si facevano sessioni da 100-120 persone nel 93, figura di due. Sono andato, eravamo tutti, stavano chiamando, e me l'hanno chiamato, ha detto oh, entra tu, se me l'hanno chiamato vuol dire c'è qualche problema. E si tu, questo tenente di Vascello, ma è tornato lei, sì, ho detto che problema c'è, io sono venuto alla Sassari per dare esami, che c'è documentazione sbagliata. Dice no, lei esame non ha da dare. Adesso le preparo la documentazione e c'ho il foglio di esonero con nominativo di essere vero. Ehi, fatta, grande sei dottore, metto passato, sì, anche io. Fatto se non hai dato esami, appunto di nido io tra le Mazzassari. Bello, sì, per via del coso la telegrafista, ti sei salvato. Ma eravamo 3 mesi studiandomi, c'è ancora tutto il corso dentro una valigetta, con tutti in Africa, con l'anima di cuore, poverino, mi avevo preparato tutto, capito? Abbiamo fatto tutto Sassari-Cagliari con un pizzonastro, in macchina invece ascoltare musica, poi arriviamo lì, non ne capiamo niente, e invece dove era passato? E io sono tornato a Sassari già col foglio di esonero con nominativo, il mio primo nominativo non era questo, era DCR, il esonero DCR. C'è stato un cambio perché si era accavallato il nominativo uguale a uno di Cagliari e quindi mi hanno dato di FB. Però per dirti, non erano dei periodi bellissimi che però, cazzo, le squadrate lo ammazzava. Veramente Antonella andrà in te da te. E questo che cos'è? È un baracchino. Questo quanto è grande questo baracchino? Va via l'FT250. L'FT500S. Come era l'FT7B? Antone, qual era quello che avevi omologato, fintamente omologato? L'FT7B o l'FT250? L'FT250 ora. L'FT7B ce l'avevo io, che l'ho regalato a Mario Masse quando mi ha aiutato a trasloccare, a lui gli avevo regalato l'FT7B col 3+3 e a Franco gli avevo regalato la T250. Di 140, c'era 140 allora, quello ce l'avevo io, quello di Antonello è manovante 756 era, e questo dicevo io della ICOM, capito? Ma grande, bello, l'FT250, avevo visto più è questa, e questo baracchino omologato, i baracchini omologati così grandi ce ne abbiamo mai visto noi, e guardi l'omologazione dietro, e me l'avevi attaccato dentro la targhetta. Ma lì anche è pericoloso fare così, perché come vi stia sfottendo, mi potevano anche prendersela molto male. Infatti Antonello gli è andata troppo bene. Ma vai, non capiva nulla cosa, vera che tu quella prendi. E lei si ha zitto, lei che cos'è? Io sono l'autista, lei ha la faccia l'autista, gli ho detto. Cosa si mette a parlare? Se sto parlando con lui, perché si mette lei in mezzo? Io attaccavo voi. Capito? Io non capivo niente, te dovrei scrivere, qua bisogna scrivere, scriva, cosa vuole da me? Scriva però adesso, quando ha scritto io glielo firmo, ma lei è troppo pulsivo, e allora se lei mi sta minacciando, cosa deve scrivere? Scriva, mi apputassai a me, era un fatto furioso, ma c'avevo, ero un ragazzo, cosa me la fotti assai, devo dirmi, quello che poi è entrato in quel giro è quello che è funzionario, l'arrivatore, quello era preparatissimo, hai capito chi è? Quello, se c'era quello eri morto, se c'era quello allora tu dovevi stare zitto perché ti crepava, capito? Ti crepava, no? Non c'era niente da fare, ma qui c'è questo comprendia, ma poi mi lascio per abbrice, anche lì mi faceva dirare, ho detto ma lei è troppo, perché si mette in mezzo? Lei faccia l'autista, faccia parlare al responsabile della squadra, lei faccia l'autista, io non sono autista, io cavale non capisco un cazzo, lo dicevo io. Non mi ricordo all'epoca quei 146 pettine pirati, ti ricordi? E lì non gli è mai successo niente a loro, no? Non credo che gli abbiano fatto storie, tipo Pierre c'era, no? Eccetera, eccetera. Eravamo tantissimi, ma eravamo una squadra, capito? Uno copriva l'altro, uno telefonava l'altro. Non ce n'erano di giochi di Caruso come adesso, capito? Dici quattro, no, non voglio parlare male, che ci credi, dici sapere chissà cosa, se viene ficciato il buco, viene battuto. Era una cosa ben diversa, capito? Era di Mattoli a Sassari, erano insomma, però c'erano sempre quelli che domavano tutto, come Sole Massi, un Walter, un Marco, eccetera. Ma ce n'era tanta di gente. E noi però, i rattori, i cimbi, insomma, quelli affezionati, le VLU, avevamo spesso, certo non lì dove parlavano loro, però. Insomma, c'era un bel complotto allora, c'era un bel complotto. Non è mai successo niente, assolutamente. Adesso ho capito, adesso è ben diverso, anche perché sono successe tantissime cose, hanno disturbato i punti, hanno traslato i punti, e c'è gente che disturbava le frequenze amatoriali, quindi è chiaro che poi dal bene si è finito al male, perché sono iniziate le denunce contro i gnoti, i controlli, in prefettura c'è un grande centro di ascolto, forse voi non lo sapete, che ascoltano di tutto e di più, quindi dove ogni anno si fanno le prove di sintonia, lì c'è una stazione d'ascolto dove c'è un rapporto che ascolta tutto e registra tutto, batte tutte le frequenze, sia in VU, sia in UCI, in HF, in digitale, da tutte le parti, la gente lo comprende, quello vuol dire avere le cose non in regola, purtroppo è così, quindi assino a frutti. Io in quegli anni forse si poteva fare, ma adesso bisogna fare molto attenti. Uno aveva mandato quel link di quel radioamatore che trasmetteva i 45 metri che hanno restato a Milano. Sì, non so se Milano o dintorni, dai. Sì, provincia di Milano comunque, sì. Quello ci ha messo il vino in fresco, che è nato 6 anni. Fortunatamente una persona anziana, quindi ha una piccola condizionale, si è bruciato foglina penale a vecchiaia, gli hanno messo 6.000 euro di multa e lì non scappi perché è una multa dello Stato, e quindi perché si è fatto al Ministero delle Telecomunicazioni, cioè non si buffoleggiano, però le cose ti piacciono, devi arrivare al vertice e se ne regola, perché a me fare rematore non mi interessa, anche se lo posso fare tranquillamente, perché grazie a Dio c'ho tutto, sia sul tetto che a casa, no, non mi interessa, non mi è mai interessato, non ho avuto mai questa grande passione, però ho tutto per poter avere tutto, se ti piace devi fare sacrificio e farlo, però stanno molto attento, perché se disgraziatamente hai fatto cose che c'è scritto, cioè come le tecnologie di adesso, ti hanno registrato e vai puoi dare l'esame, sei fregato, anche non ti ricordi l'esame, capito? Però se vogliamo castagnavano più prima, che la furgonetta girava e come, anche qua sono venuti, lo sai, io avevo la residenza una via più in basso, sono venuti qua e c'erano gli studenti in affitto, non mi hanno trovato, quella volta di TVI, nel 84, 85, adesso non girano più, cioè, qui si registrava anche allora, già c'erano le bobine, c'erano, magari adesso è digitale, prima c'erano le bobine. E prima c'era comunque più tutto, dai. Più gente, più radioattori, adesso mi sa che ti prendono, ti devono catturare a forza dalla strada e mandare a fare l'esame, se no tutta gente. Bene, stanno più facendo esame a proposito. I periodi quali sono? Giugno, non so, ho perso di vista tutto. Maggio a pobre, però maggio è saltata perché non c'erano candidati, capito? Adesso vediamo a pobre, ma comunque. Ripeto, in quel periodo lì Marco, la camionetta girava perché noi da deficienti, chiaramente se avevamo potenze alte, baracchini all'Ande Caraibi, io ero il primo perché baracchino non ne ho mai avuto, ho sempre avuto questa, la radio, da quando ho iniziato a trasmettere, capito? A casa di mamma avevo la KB23 e c'avevo un lineare dello Speedy con l'internet più due da tavolo. Sono arrivato a Sassari, da Mario Lampare, avevo comprato il primo 430, quindi ho sempre, sono stato cremudiano da piccolo e continuo a esserlo per la 27 perché è la miglior radio al mondo, non ce n'è per nessuno, perlomeno per come la uso io qui, ne sento che fanno schifo, ma però è un problema di voce. Però in quegli anni lì la camionetta girava in fascia di là, perché noi risolvevamo i televisori, capito, era un'altra cosa, i televisori, risolvevamo insomma i supermercati, risolvevamo di tutto e di più, ma quello ti voglio dire io oggi che è cambiata la tecnologia, avere apparecchiature amatoriali è un reato se non sei radio amatore, capito? È un reato, un grande reato, ti arrestano. L'uso delle apparecchiature amatoriali per chi non è radio amatore, e la detenzione delle apparecchiature amatoriali per chi non è radio amatore, è un reato, è passato un reato, capito? Quindi bisogna stare molto molto attenti. Se batta uno che ti vuole male, ti denuncia, vengono direttamente e ti buttano i denti, non stanno lì a tirar molla, bisogna stare molto attenti. Molto molto attenti, eppure adesso con Google Maps, con tutte le tecnologie che ci sono, puntano Google Maps sopra, eccolo qui, guarda le antenne che c'è sul tetto, come fa questo ad essere un GB? Non può essere, così non è sicuro più, è perfetto, questo non può avere, questo non può avere, andiamo a vedere cosa c'è dentro casa, si è buttito, cioè non... bisogna stare molto attenti. Io non mi preoccupo, non c'ho più nulla qua, manco ricevitore c'ho, mi sono rotto anche di ascoltare i radioamatori, tanto parlano raramente, delle solite manate, poi VU più zero, non conviene più comprare ricevitori, ricevitori né veicolari né da tavolo, no? Non vale più la pena, valeva la pena 20 anni fa, ormai non più. Perché tu mi insegni che la tecnologia è cambiata, capito? È cambiata la tecnologia, è chiaro che si va avanti, non si va indietro, è chiaro che anche gli arrivatori hanno più luce adesso del digitale che dell'analogico, ma è chiaro che non si va a buttare via Catrini per una seconda quella con proprio ricevitore a costa Peppino di Capri. Ah, cosa? Lascia perdere, capito? È diverso, è un mondo completamente. Tu immaginati che io quando ho montato le antenne sul tetto, la 3 elementi, il KW, la 5 elementi, insomma quando ho montato le direttive sul tetto, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp con la foto del tetto, presa da Google Map, un carissimo amico, non lo dico, capito? E aveva scritto: auguri, dopo 23 anni ti sei deciso di montare le direttive sul tetto, figurati tu. La città della satellite, coso, mamma mia, eia, facciamo girare un po', dai, fra poco chiudiamo, facciamo un caffè qua a casa, Antonetto, è andato via, Talino, tu ne hai avuto avventure hard con quelli là? Te credo. Fino a pasticceria sono venuti. Ma non è che la tariffa che è pasticceria, che esce dopo un dopo. Sono già puliti da Tarino. Vabbè, va, non sto qui a dire cosa è successo perché non va bene. Io avventure ciò, mia cari. Avventure ciò. Se non guida tremendi. Avevo voluto la terra, c'è per pasticceria da Tarino. E c'è il capo che entrava nella finestra. Non è che abbia sceso la roba, abbia tagliato un cavo. Non ho capito, no. Chi è che aveva steso la roba nel filo nell'11.58 che passava dalla finestra del laboratorio? Ma ne avevo lì, no? Io l'avevo messo anche lì un'antenna, non mi ricordo che cosa era, col cavo 11.58. Boh, mi pare di no, non ne avevo lì, io ce l'avevo in via Pietromica. Ah, bravo, in via Pietromica, ma da chi non ce l'avevi nell'R4? Sì, c'avevo la visa, guarda già 1-2 di macchina. Che bella che era quell'R4, ragazzi. Vabbè, l'R4 o Marco, Natalino, tu l'hai conosciuto? Andrà bella con la macchina, L'R4 rossa magari o no? No, blu era, ce l'ha buttata, ne ha avuto chissà quanto, una bianca. Ehi, quella bianca che c'avevi la PLC 800. Allora la Visa, la Citroen in Visa. La Citroen in Visa, io c'avevi la PLC 800. Ma di Vico e Manzano e Antonino, in giro non segnando, è sempre, perché io mi ricordo, chiudevamo alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, alle 7 dovevo andare a lavorare, ragazzi, mi sonno, sempre un vecchio baracchino, sempre un baracchino, per carità di Dio. Allora si curano dei punti. Era un po' di gente c'era allora, un po' di gente, ma sono rimaste tre antenne, non le ho fatte vedere l'altra volta a corso. Massimiliano, sono tre antenne qua, c'è Daniela che abita ancora qua, però il baracchino non ce l'ha più, la sorella di Scoiattolo, già riconosce Antonello, poi ve ne era un altro che calibro non appresci, erano convinti di fare chissà che cosa, poi i pareti pigliavano, io non manco li sentivo perché c'avevo il 4.30 allora. Figurati. Io devo avere un 4.40. Ehi, prima del 4.40 ne hai avuto un altro, bello. 4.40 mi pare avevamo preso assieme, io fu e Froso. E io mi seguo tutti e due, 4.30 e 4.40. Sono affezionato. 4.40 l'avevo ripreso, poi questo è il mio, perché avevo fatto il 6.80, il 140, cioè avevo tutto 6.80, 140, 4.30 e 4.40. Io stavo arrivato con Wish. Io tengo 4.30 e 4.40, così ho fatto. E questo era il mio, l'ha ridato Roberto, sono andato a Biancunia a revisionare tutto. Ma se ne varie, è Fugugaio, però almeno è nuovo la radio. L'altra che c'avevo io l'ho volata a Franco, Franco l'ha volata a Giulio, quello che c'è Giulio lo stesso era la mia. Quanto costa grosso modo una revisione da Bianconi? Guarda, senza trasporto, perché ho pagato 25 euro andare e 25 euro a tornare, proprio, anzi, un via via, ho pagato 19,50 euro andare e 19,50 euro a tornare, con una GLS, perché mi conosco, all'intervallo, mi aveva appunto vado lì. La revisione è costata quasi 200 euro, esattamente 186 euro. Ok, dove ha cambiato tutti i condensatori, tutti dalla A alla Z, perché erano completamente tutti da cambiare, tutte revisionate le schede, rifatte tutte le saldature del circuito stampato dove volevano rifatte, rimesse le schede al manco, revisionata tutta internamente, tutte le tarature di ricezione, compresa lo smitter, banda laterale, FM, AM, tutto. 186 euro mi è costato male. Se conti le spedizioni, però almeno è come che tornasse nuova, amico, quella di altri 20 anni, anche 30, sacri più. No, è nuova, nuova, nuova anche esteticamente questa, era la mia, poi Roberto la radio le copriva perché l'ho fatta 10 anni fa a Roberto. Sì, se sei pronta mangiamo. Gli ho dato un po' di roba di quella praticamente vintage, belle radio, belle radio, non dico quale, ma belle radio, vintage, capito, niente, una mi pare me l'ha pagata, gli altri l'ho detto, ma non c'è niente in cambio, io c'ho 4.40 la revisione, dammi lì, se già me lo revisiono io, ed era mio, infatti questa c'è la scheda fonema anche. C'ha tutti i filtri, questa era completa, l'avevo comprata, c'ha tutti i filtri, filtri SSB, c'è anche il filtro, quello che stringe un po' e allarga anche per la M, c'ha tutto, questo è completissimo, e me lo tengo, già va bene, già va bene. Invece io aveva Tania aveva comprato nuovo, quello tu l'avevi preso, l'avevamo andati assieme, ti ricordi che te l'ho fatto comprare io? Da cosa? Da Nello? Sì, uno, ne ho avuto anche un altro, cazzo, c'erano tutte e due la scheda Fonini, e cazzo va via nel duccio. Sì, sì, se lo tieni bene 4.40, se le fai le cose giuste, non ci smanetti, eccetera, è una bellissima radio, mi è sempre piaciuta completa, capito? 4.30 è più meccanico, 4.30 se lo mangia come ricetrasmettitore, è più, molto più meccanico, però non ha la correttura d'antenna, non ha le 100 memorie, capito? chiamata, sono più completo il 4.40. Però, se è revisionato ogni tanto e tenuto bene, è una radio eccezionale. Va bene, signori, io vi saluto, che sono le 9, adesso andiamo a papai, grazie delle due chiacchiere e ci sentiamo. Ok, salutatemi Antonello, no, voi lo sapete dove che trasmettere FM, io mi preparo già la radio per ascoltare musica anni 80 che mi piace, capite? Luisenka, ma... io te lo saluto. Il Luisenka qua, ma non si trovano 44 buon? Sì, Natalia, sì, si può anche trovare, si può trovare. Se tu mi dai l'ok, ciao Concetti, ho sentito, buonasera. Quando tu mi dai l'ok io te lo cerco, però deve essere, insomma, di gente fidata, capito? Perché... il 440, se secondo quanti anni è che non è stata fatta la revisione, e c'è i compensatori al 50%, ti può lasciare a piedi. Tu lo accendi, tutti i puntini nel display, devi aspettare che i compensatori si riprendano, insomma è una rottura di scatto. Mentre invece se è revisionata, che a me non mi danno le cose, ma danno a posto, io devo a posto, perché quello che c'è Giulio lo stesso, io prima di darlo a Franco l'avevo tutto fatto revisionare, cambiati i condensatori, cambiate anche l'esistente, lì sono stato cambiato, è tutto allineato, infatti è perfetto quello che c'è Giulio. C'è un aggiornamento, è stato fatto, una revisione è stata fatta 2 anni fa, ma anche bene, ma se 4, 5, 6 anni che la radio continua a camminare così, mi può lasciare a piedi, e quindi il prezzo che tu la compri poi ce ne devi mettere altre 200 sopra, non ne vale più la pena. Nel momento in cui tu mi dai l'ok, io te la cerco buona, capito? Mi cazzo. Vabbè, se la trovi, cosa vuoi dire? Vieni. Ah, zitto, no. E quello vuoi assoffano. Ah, hai intendi assoffano? Ah, è vero, già assoffano è da faggia. Un grippo va di uscire, si la canzone che si trova invece la faggia. Pronti siamo? Allora andiamo, vai. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, anche a chi sta ascoltando, fate da bravi, ci sentiamo domani, stessa ora, stesso canale. Ciao Marco, Antonello, Natalino e chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Buonanotte a tutti, QRT, ciao. Ciao, ciao, qua, avanti Marco. Ciao Claudio, buona cena, dai, sentiamo le prossime. Ciao, ciao, ciao, ciao, domani sono a riposo, sono da Roberto, volevo portare la macchina a fare i freni e poi sono libero, già ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ok, ciao a tutti, oggi era giovedì, domani vediamo com'è il tempo. Dobbiamo organizzare una pescata, amico Gianni, Marco, di notte, cava. Ma quante canne, e quante persone effettivamente pescano? Tutte, oppure solo per compagnia? Tutte, oppure anche per compagnia, non c'è problema. Tanto sempre per tutti, io ci ho preso un po' la mano a pescare, la verità. Uso le canne da pesca da... caspita, devo cambiare la lenza, perché ormai quella lenza che c'è è fragica. Anzi, una cosa dovrei fare. Ancora è tutto bloccato mi per rinnovare la licenza gratis di pesca. Pesca e mare. Sono andato al sito ministeriale, ma è bloccato. Stiamo aspettando il decreto del 2017. Esce il decreto, potrai mettere i dati, sempre gratis, si spera, e ti stampi questa cosina che ti danno, questa specie di tesserino, come lo vuoi chiamare, lo stampi con la stampante e te lo porti appresso. Sì, e perché senza quello non si può andare? Beh, prima bisognava farlo, io l'avevo fatto nel 2010 o 2011, non mi ricordo, poi voleva 5 anni ed è scaduto, non è che l'abbia usato nemmeno. Adesso l'hanno prorogata, cioè non c'è bisogno di farlo vedere perché hanno prorogato la vecchia regolamentazione, non so, insomma deve uscire il decreto, poi, oppure si va in capitaneria, come ha detto Gianni, si va in capitaneria, glielo chiedi, te lo dovrebbero fare in teoria. Meglio averlo, perché se poi lo chiedono, se non ce l'hai. Meglio averlo. Se si è visto, meglio farselo. Chiederemo in capitaneria, così non sei sicuro che non incorri nessuna sanzione, capito? Non si sa mai, è meglio chiedere prima. E che io sappia, l'hanno prorogato, la scadenza dell'ultimo l'hanno prorogata e dice non c'è bisogno di esibirlo, perché stanno aspettando il decreto che ancora non è uscito. Quindi non credo i problemi se li siano. Io l'ho anche perso il mio, pensa. Perché era fatto di carta brutta, mi si era bagnato, si era anche rovinato. Il prossimo che mi faccio me lo faccio plastificare. E anche io farò così. Adesso scendiamo in capitaneria e chiediamo, capito Marco? Sì. Anche con le bombole voglio pescare. Così ti mettono le manette subito, anzi no, il piede di campagna ti metto. Se immagini, mamma mia, quando vedi la motovedetta su. Adesso ho sentito, allora ti scoprono tra le bollicine che salgono, no? Ho sentito che c'è un nuovo tipo di respiratore, per cui l'aria che tu butti fuori rientra in circolo, viene immagazzinata in questo serbatoio, filtro, quello che è. Quindi da sopra loro non vedono più niente. E infatti, se c'era uno che si aveva attinto le bombole del fondo del mare perché andava sempre lì a pescare, col cazzo lo vedevi. E più, cazzo, il bastardo andava a prendere le sciole, è un bastardo quello lì. E se avevo sentito che uno, gli amici erano andati con le bombole, erano entrati in una grotta sotterranea, era pieno di aragoste, dice che si sono ammazzati mangiando aragoste e molte le hanno dovute buttare, la maggior parte. Che senso ha filare una tonnellata di aragoste, tra virgolette, e buttarle il resto? Era meglio prenderne poche e mangiarsele. Infatti, figlia chi ciò che ti serve, se no distruggi il dolce e dopo non viene più. Non si fa così. E questi erano un po' scoppiati. Uno mi aveva detto, lo conosco io, dice ci vieni a pescare a largo, a pescare le, come si chiamano, gli squaletti, le, ci vieni a pescare le verdesche. Ho detto ma vai, no, non ci vengo con voi. Quelli sono un po' scoppiatelli, me. Anche le verdesche. E magari a mani nude le prendevano. La verdesca è uno squaletto, mi ti tira un morso, cazzo. E vedo che lì sono all'angolo più di 2 metri. Infatti, se sono adulte sono come squali, cioè sono squali, sono pericolosi anche loro. Se tu la ferisci, le fai male, non la ammazzi, magari si gira e ti distrazza un braccio. Mi pare ovvio, dovresti avere uno di quei fucili sull'acqua con quella boccola a livello 12, mentre lo docca, guapo, fatto la busiranna. Eia, in quei film anni 70 vedevo anche che mettevano tipo il 30-06 o giù di lì, uno di quelli a missiletto, mi. Capito, come lo toccavi, esce, metteva il percussore, poma, e li sparavi i proiettili dentro. Quelle cartucce che uso col fucile a pompa vanno bene. Adesso vediamo se c'è qualche schifo di televisione da vedere. No, vediamo. Devo fare anche il caffè, vediamo se mamma lo vuole. Sta lì, adesso chiudo, là. Cercherò di entrare più spesso. Naturalmente più siamo, più ci divertiamo. Sta un po' battendo fiacca la frequenza. L'altra volta ti eri scocciato, cioè, e ne bubububu, non c'è mai nessuno. Io so che c'è Laura. Di mattina, anche tanto per dire, se esco in macchina di mattina, non vedo mai nessuno. Il canale 5 è morto, non c'è nessuno, manco camionisti, boh, non andranno qui. I camionisti all'U45. È nata. No, di mattina non entra nessuno. Io di mattina sono cucato. Ogni tanto c'era Graziano di mattina, qualcuno c'era tempo fa però. Tempo fa. Ma tu in che rapporti sei? Il canale 20. Tu non hai bisticciato nessuno, quindi non hai problemi a parlare anche là. No, che non ho problemi. Che problemi devo avere? Io non ho bisticciato con nessuno. Giusto, tu puoi andare dove vuoi, PMR sul 20. Di mattina magari potrebbe esserci Graziano, dipende dalle mattinate. E quindi, purtroppo, vedi, la ruota prima era una sola ruota, poi vabbè, sono stati intesi e le ruote sono diventate due piccole, da una più grande sono diventate due piccole. Infatti, Gianni, l'andente, tu rendi, cazzo, guarda, allora sai che questa settimana stavamo andando e tornando di sera, io e lui, a fare queste, io ho visto come ce l'ha il piede, mi guarda. Ancora non è guarito, mamma mia, incredibile, me le hanno detto che per guarire doveva stare a letto col piede alzato. Se te lo sto dicendo, è un fosso, c'ha, io l'ho visto al vero proprio, e sono andato a casa sua e tutto, è un fosso, va, non gli è ricresciuta la carne. Eia. Gli è costato quella volta, ma te le immagini che bisogna camminare fuori con le scarpe antifortunistica, quelle con la piastra d'acciaio sotto. Sì, non lo sapevo. Io il mio, per esempio, il cane, lo faccio andare solo sul marciapiede, sulla roba, torre, cosa, non lo faccio andare. Addirittura se si avvicina al bordo del marciapiede lo richiamo subito, perché lo porto senza alcun taglio io. Se viene mi aspetta, perché io cammino piano, non me ne biglio brezza. Lui corre un po' e mi aspetta, capito? È troppo dopo il camionetto. No, Gianni quando porta il cane trotta, perché il cane tira. Trotta, pensa che Gianni col piede così è molto più veloce di me. Io sono dietro che arranco, arranco proprio me. Sì, già lo so, quei cani tirano i duci. A chi Filippo? Non gli fa dici la mazza a Claudio. Il mio non tira. Il fratello tedesco mio, senza guinzaglio andava, dove andavo io andava il cane, se io mi giravo, girava anche il cane, sempre a sinistra, a faccia a me, una roba d'ostratto, la prego. Sì, no. Lo so che non ti piace il sax a te. No, c'è un cane. E musica, lo va. Cazzo, non è se ne mette il gatto. Picchialo con la pompa. Alla selvaggia, mi. Tiè, tiè, tiè, tiè. Poveretta. Io dico così poi, mamma mia. Non sono proprio animalista fissato, ma è chiaro che non bisogna fare soffrire gli animali. Sono come le persone. E certi animali non lo capiscono. Mi. Ieri stavano sempre intervistando quelli di quel paese che hanno ammazzato il cane con la pala, l'hanno appeggiato a un ramo, con le fatto gli hanno tirato un colpo di pala, prima bastonatine e poi un colpo di pala l'hanno ammazzato. E purtroppo lì sono calabresi in un piccolo paese e la mentalità è quello che è. Brutti terroni. Sì, hai di appiccare dall'alburo. Così si trattano gli animali, assolutamente. Una, vabbè, una scena di sugami. Veglia. Bene, Natali. Io chiudo. Saluti in casa. Spero di entrare, dai. Tanto mica non ho nulla da fare, tanto vale entrare in radio. Ok. tutto quello che mi serviva la sono contento, ma non male che ho beccato il binocolo giusto che non ha gli occhi storti, detto così, che certi sono tarati male, ci sono gli oculari, vedi l'immagine stoppiata, se c'è quello meno male che è uscito bene. Per quel prezzo, guarda, 28 euro ce n'è d'avanzo, così mi guardo i culi delle signorine al mare. Perché c'è oltre che abusivo, anche guardone. Eia, guardone, guardofilo. Ehi, guardofilo. Vabbè, va, buonas noches, che adesso mi guardo 007. Ah, oggi c'è 007, cos'è? Sean Connery? Non ho guardato se era Sean Connery, però è su canale 24, su Movie, quello lì. Ehi, un bene a tali, ciao, la notte ci sentiamo, saluta in casa. Altrettanto, ciao.